Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Cruciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Cruciani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, lei ha un microfono, una potenziale, un potenziale enorme di che l'ascolta una platea enorme, ma insomma così un pochino, ma che cavolo di contributo lei dà per migliorare la nostra società parlando di culi, fuori? Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove stiamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Ma tu dici che devo stare un po' più attento ad andare alla caccia dei cinghiali? Guarda, abbiamo deciso oggi, comunicato numero 44 delle Brigate Capanna, mercoledì 6 gennaio, giorno della cosiddetta epifania, abbiamo deciso di chiudere la sede della Radio 24, meglio nota come radio della cosiddetta Confindustria, l'organo che riunisce le aziende. Ma non mi pare chiusa la radio, abbiamo deciso di chiudere in segno dimostrativo la sede della Radio 24, quindi oggi il dottor Parenzo eserciterà abusivamente la professione di giornalista barra giornalaio dal suo cellulare. Questo lo facciamo in spregio a quanto fatto dal presidente dottor Squinzi della MAPEI, in quanto lo sfruttamento dichiarato delle maestranze che lavorano alla Radio 24. Ma non c'è nessuno sfruttamento. E il fatto che la suddetta radio non parli mai dei diritti di ex parlamentari come il sottoscritto, il quale sta lottando da mesi per il ripristino del vitalizio ex ante legge del 1974. In base a questa legge, allora, di cui voi non parlate mai, ma il dottor Capanna ha detto a 8.000 euro netti al mese. Non è vero. Per questo abbiamo deciso di occupare la Radio 24 e fare una battaglia, cioè, contro il mi sta dicendo che il dottor Parenzo oggi trasmetterà da casa col cellulare invece che negli studi? È precisamente così. Cioè, abbiamo fatto chiudere la sede della cosiddetta Radio 24, oggi è rimasta non è cosiddetta. Radio Capanna. Ma è incredibile. Vabbè, allora tenteremo un collegamento con Parenzo da casa invece che dagli studi di Roma, perché la sede di Roma è chiusa per non si sa quale motivo, per proteste sindacali, roba da pazzi proprio. No, io mi sono preoccupato perché ho letto una notizia, battuta di caccia al cinghiale finisce in tragedia, sessantenne muore in provincia di Firenze. Parenzo, ci sei collegato da casa? Beh, accade, sì, buonasera a voi tutti, sono a casa perché la sede è chiusa. E beh, è rischiosa la caccia al cinghiale. Cioè io dici che ho rischiato di essere impallinato al sedere, se non addirittura al petto, alla testa? Succede spesso, o alle volte il cinghiale ha la meglio. No, quello è raro. Qualche volta succede e vengono disarciate delle macchie. Ad esempio, io mesi fa ero in macchina con il bambino di Toscani, con Oliviero Toscani, con la sua panda, della sua tenuta toscana, qualche mese fa è accaduto, e lui stesso mi diceva che spesso è molto pericolosa quella strada, perché quando i cinghiali attraversano in velocità sì, la sì. strada, vabbè, se tu non fai, vieni travolto, no, vieni letteralmente travolto. Quindi spesso il cinghiale ha la meglio sull'uomo. Allora, la tragedia è accaduta in Valdelsa, provincia di Firenze, molti animali. Ma Colle Valdelsa, certo, sì. Come una famosissima. Una volta c'era la moschea progettata, ti ricordi? Una tragedia perché è morta una persona, molti animalisti esulteranno, no, durante la caccia al cinghiale è morto uno, se l'è cercata. Un uomo di 60 anni stava prendendo parte assieme alle altre persone ad una battuta di caccia al cinghiale, gli è stato fatale un colpo di fucile che lo ha raggiunto al torace, inutili soccorsi sul posto, anche i carabinieri, eccetera eccetera. Vabbè ragazzi, io sono qui vivo e vegeto dopo aver partecipato alla caccia al cinghiale in Umbria. Credo nei prossimi giorni documenteremo la mia partecipazione, urbi e torri. Ma a che ora sei andato? Perché deve essere alle 5 del mattino, alle 6 e mezza. Prestissimo, mi sono, anche per questo mi sono ammalato forse, anche per questo. Mi sono svegliato prestissimo, ho preso umidità, una cosa terribile. Morto il cinghiale poi? Beh, sono stati ammazzati diversi cinghiali, certo, durante diversi. Questa. Diversi cinghiali dopo questa battuta di caccia. Ma guarda una che ecatombe avete ma, fatto. Ma che ecatombe? Abbiamo ammazzato il cinghiale, ragazzi. Un massacro. Il cinghiale rompe i coglioni, dai, su. Distrugge le coltivazioni, i terreni, dai. Oh, ragazzi, il mondo si è svegliato con la minaccia della Corea del Nord. Della Corea del Nord. Ma è una brutta storia quella, eh? Ma che brutta storia. Ancora tu brutta, pensi brutta, che Ciccio, sì. quello là con i capelli strani, quello Ciccio è uno Kim. Ma dai, ma quello lì è uno psicolabile. Ancora pericoloso. Pensi che Ciccio possa, Ciccio Bello della Corea del Nord, ci possa rompere i coglioni sul serio? Possa davvero lanciare la bomba a idrogeno lì? Ma è tutta una finta. Io dai. Non mi sento sicuro. Io non capisco perché non invadiamo la Corea del Nord. Non riesco a capire veramente, ma perché non la facciamo noi, finita con Ciccio. Sud, ma no, ma chiunque, basta con sti buffoni, con quello che ammazza la gente, con sti capelli strani, che ha le manie più bizzarre, che minaccia con la bomba a idrogeno tutto il mondo, dice che gli Stati Uniti sono dei cani che vanno ammazzati. Ma di che stiamo parlando? Dai, nel 2015 ancora, nel 2016 quello che è, ancora con Ciccio e Kim Jong-un. Ma dai, su, una cosa patetica, dai, patetica. Comunque, l'annuncio della TV coreana. 주최 배고 2016년 1월 6일 10시 주최 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. 미국의 극악무도한 대조선 적대시 정책이 근절되지 않는 한 우리의 핵개발 중단이나 핵포기는 하늘이 무너져도 절대로 있을 수 없다. 아, qui ci vorrebbe veramente il traduttore, il traduttore in diretta. Adesso qualcuno ci dovrebbe chiamare per farci una traduzione, tanto sarà uguale a quello della Corea del Sud. Il tono non era pacifico, però con cui no, ma è tutto speech. Vero, cioè non è una parodia. Ma chi è questo qua, il ciccione lì, è l'annuncio dell'annunciatore. No, non lo so. Certo, ma questo che annuncia. Io vorrei fare risentire, però, perché è interessante un passaggio. C'è un passaggio interessante. L'annuncio della TV coreana all'esplosione di questo test alla bomba idrogeno. Siccome non c'è stato nessun test, innanzitutto hanno fatto vedere, cioè non si può essere sicuri di niente in Corea del Nord, capito? Cioè non è che si può essere sicuri di qualcosa in Corea del Nord. Dunque dicono che hanno fatto un test alla bomba idrogeno, dibattiti, minacce, il mondo in pericolo, il consiglio di sicurezza dell'ONU riunito. Ma dai, ma facciamola finita con sto buffone, dai su, con sto Ciccio Bello del coreano del Nord. Adesso Razzi si incazza, fra poco lo chiamiamo, ma è così, dai su. 주최 배고 2016년 1월 6일 10시 주최 조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. 미국의 극악무도한 대조선 적대시 정책이 근절되지 않는 한 우리의 핵개발 중단이나 핵포기는 하늘이 무너져도 절대로 있을 수 없다. allora, la televisione coreana, meanwhile, nel frattempo mandava anche delle voci di cittadini pieni di contentezza, di felicità per questo test nucleare. 방대한 각종 핵 살무기로 우리 공화국을 허심탄탄 노리고 있는 침략의 원흉 미국과 맞서고 있는 우리 공화국이 종이에 수탄을 틀어진 것을 Ma questi chi sono? Cittadini presi per strada? Ma è incredibile, dai, su. Oh, ma la cosa più incredibile invece avviene da un'altra parte, cioè a Sky TG24, cioè a Sky, la televisione che è guidata di proprietà del signor Murdoch. Sì, voglio ricordare squalo, sempre, sì. Signor Io Murdoch, squalo. Ultracapitalista, ultracapitalista. Ebbene, tra i giornalisti di Sky TG24 c'è il nostro carissimo, amatissimo, che non è amatissimo come caro leader, ma insomma ci siamo quasi, che si chiama Pio D'Emilia. Signor Pio D'Emilia, sei quello col barbone ogni tanto che appare, no, nei servizi, quello stupendo, quello che segue le rotte dei migranti, sì, è stato in Giappone tanti anni, super comunista, eccetera eccetera. Ma senti, senti cosa dice il compagno D'Emilia. Dice non è un pericolo reale la risposta all'omissione dell'Occidente, cioè praticamente la colpa è dell'Occidente che isola con l'embargo la Corea del Nord. Pericolo reale io non ne vedo, perché sono parecchi anni che seguo questa regione e dalla Corea del Nord per ora sono arrivate soltanto grandi minacce, provocazioni, ma sempre in risposta ad altre azioni o comunque ad omissioni da parte dell'Occidente. A un certo punto dice il ministro degli esteri, una volta mi ha detto che la bomba è l'unico modo per non avere i Marines in casa, tutto orgoglioso, no? L'indipendenza della Corea, ma dai, su. Quando io andai nel 2006, dopo il primo esperimento nucleare, parlammo con il ministro degli esteri di allora, lui ci rispose: l'unico modo per non ritrovarci i Marines nel nostro giardino è quello di possedere, o almeno far credere allora, che possediamo, un ordigno nucleare. Chiedo... La Libia e l'Iran e l'Iraq, scusate, non ce l'avevano, e mentre la Corea del Nord ce l'ha ed è ancora lì, al suo posto. Studi medici hanno dimostrato che la media dei rapporti sessuali per un uomo va dai 2 ai 5 minuti. Sei preoccupato? Ho un'ottima notizia per te. Le capacità sessuali di un uomo non sono immutabili. Queste abilità, compreso il controllo sulla tua eiaculazione, possono essere imparate e migliorate fino alla perfezione. Scusate, c'è stata un'interferenza. Questo era Franco Trentalance, l'ho riconosciuto dalla voce. Scusa, c'è stato, ogni tanto c'è un'interferenza che entra dentro. Cos'è che ha detto? La media della durata di un rapporto sessuale, che cos'era? 3-5 minuti? Bah, mi ma sembra... non parlava della Corea. Però. No, no, mi sembra un po' poco però, eh. Però sulla Corea c'è anche quello che scrive Gad Lerner oggi, il tuo amico Gad Lerner. Sì, una battuta fatto, dai. No, vabbè, una battuta, ma perché adesso mi devi fare subito incazzare? Perché una battuta quello che dice perché Gad Lerner? Perché le battute quando le fai. Ma non è una battuta, lui non è un tipo. Ma non è un tipo che fa battute. A parte che veramente io lo conosco benissimo, ha delle battute straordinarie, invece, molto divertente. Ma ho capito, ma non è che una battuta. È una delle persone più divertenti. Ma non lo so, ma in questo caso, ma può darsi, ma non è questo il punto. Non l'ha scritta come una battuta, ti posso assicurare. Ma sì, l'ha detto, come dire, è una buttata, anzi, non. No, no, ragazzi, non è così. Però perché ogni volta quando scrive uno in croce, esplode in croce, allora, no, cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Parrocchia, ma insomma. Esplode bomba all'idrogeno in Corea del Nord, provoca terremoto. Peccato che Salvini e Razzi non si trovassero nella loro patria elettiva. Appunto, questo ha detto, cioè ha augurato in sostanza a Salvini e Razzi di trovarsi in Corea del Nord quando esplode, quando ma è esploso. No, vecchio, mi è una buttata. Dai, ma come si fa a mettere in croce Gaddino? Io non stavo, non sto mettendo in croce nessuno e me ne fotto. Polemiche inutili di quelli che si offendono, ma di cosa? Ma siete sono i primi padri, ma sono Salvini è la bandiera del cosiddetto politicamente scorretto. Credo, allora ma nessuno volta... non è che tu auguri la morte a Salvini a Razzi perché tutt'altro, di questo si tratta. Ma neanche Gad l'ha fatto. Esplode fatto bomba all'idrogeno in Corea del Nord, provoca terremoto, peccato ma io che capisco perché una volta non è una battuta, ma politicamente no. Non capisco perché. Ma non Salvini è politicamente scorretto questo, è una scorretto. Puttanata, non e è può essere una volta, vabbè. Non ho capito. Va bene, d'accordo, hai ragione tu. No, ma non ho capito il motivo. Però è con noi Antonio Razzi, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera e buon anno a tutti. Come andiamo, caro Antonio? Benissimo, benissimo. Come, benissimo. Anche quelle che mi vuole morto, se la piglia. Ma nessuno ti vuole morto, figurati. Dove se la piglia? Dove se la piglia? Amico mio? Mi stava scappando una parolaccia, ma mi sono fermato. Ma Parenzo dice che no, è uno scherzo. È una battuta. Ma Parenzo, guarda, l'amico Davide, quando parlano quelli della sinistra, dice che è battuta. Quando parla uno della destra, di centrodestra, dice quello non si deve dire, quello non si deve fare. Esatto. Allora, io non ho nemmeno risposto a quel Twitter di Gad Lerner, Twitter, perché penso che può essere un fake. No, non è un fake, è suo. Questo non è. Te lo posso assicurare. È suo. Io pensavo a lui, che ritenevo un giornalista, diciamo. Come? Valido, della Serie A, diciamo. Sì, sì. Invece così lo devo mettere. Nemmeno la Serie C, ma la metto in promozione, nemmeno. Cioè, vabbè, ma come lo definisci? Un cretino, un coglione, com'è? No, non lo devo definire io, perché non... Beh, scusa, non ti, sono all'altezza. Ti ha augurato? Io non sono all'altezza, non sono un giornalista, non so, però un giornalista serio, prima di tutto, anche una battuta non lo farebbe una cosa del genere. Cioè, un giornalista serio. Poi se non è serio, è chiaro che fa quello. Però voglio uno che ti ha augurato di essere lì in Corea del Nord mentre scoppia la bomba a idrogeno. Ma io, guarda, anche al più grande nemico non auguro mai e poi mai di morire o di scoppiare sopra una bomba. Esatto. Hai capito? Io anche al più grande nemico. Ma non, diciamo, ce n'ho pochi. Forse si ricordava di altri tempi, Parenzo, signor Lerner, no? Si è ricordato di altri tempi del passato, forse, degli anni 70, forse. Che ne so, si è ricordato di alcune cose degli anni 60, 70. No, scusami, io veramente il senso della polemica non lo capisco, né tanto meno. Vabbè, non lo capisci, vabbè, ma allora quando fanno... No, ma non lo accetto da persone... Non parlo di razzi in questo caso, che insomma, ma da persone. Tu avresti detto una cosa gravissima. Salvini avresti detto una cosa del genere. Tu avresti detto una cosa gravissima. Ormai siamo abituati a cose terribili che vengono dette. Ma non lo sto nemmeno mettendo in croce. Sei tu che dici invece che è stata una battuta. Io non è che ho detto. Io Gad Lerner ha fatto una battuta sulla bomba. Allora, punto uno. Non è una battuta. E come fai a dire che non è una battuta? Ma non è il paese preferito, quello ci andato una volta, ragazzi, ogni tanto ci va per portare degli imprenditori. Sì, allora ma non è il paese preferito. Ma fossero là anche loro a fare. Ma guarda, e poi lui è di sinistra. Non è che stiamo parlando di destra. Una nazione, uno che come lui che parla così vuol dire che i comunisti non sono buoni. Ci mancherebbe altro. Cioè dovrebbe essere vicino ai coreani, dici te? Almeno nel senso politico, sì. Cosa politica. Non credo. Invece ci sono io vicino ai coreani, perché sono gente per bene. Cioè, Kim Jong, che vogliono la pace e vorrebbero allargarsi. Ma scusami. L'embargo lì, l'embargo alla Russia. Ma vogliamo levare queste cavole d'embargo? Perché ci divertiamo a fare come i bambini a scuola? O mi dai la gomma, se no io lo racconto a mio papà, lo dico a mia mamma. Ma insomma, come i ragazzini dell'asilo. E questo mi sembra la stessa cosa. Cioè tu dici che la soluzione è togliere l'embargo alla Corea del Nord? No, ma come è stato levato a Cuba, come è stato levato adesso all'Iran? Piano piano. Scusami, piano ma Kim Jong-un è una brava persona? È uno che vuole la pace? Bravissima persona. Io lo conosco, ha spostato tutto come lui. Bravissimo. Cioè, meglio lui di Renzi? Beh, questo non credo, questo non lo so, questo non lo posso giudicare, capito? È una bravissima persona, dici fossero tutti come lui, i leader. I leader è una bravissima persona che si può stringere la mano e tranquillamente parlarci. Sì, stringere la mano, d'accordo, per carità, però se dici qualcosa contro di lui non so se te la passi bene in Corea, No. Ma non c'è bisogno di parlare male, perché... Se uno è bravo, è bravo. Uno che fa tutto, specialmente per quanto riguarda i ragazzi giovani. Adesso tu lo sai che a Corciano, vicino Perugia, c'è una scuola di calcio. Cioè lui è uno che dà lavoro ai giovani. Ha mandato i giovani a giocare a pallone, a vedere la tecnica del calcio italiano. Vabbè, ma quelli calciatori, ma è uno che dà lavoro ai giovani, uno che favorisce i giovani, è un amico dei giovani. Bravo. No, bravo, lo dici tu. Lavorano tutti. Beh, non sì. Non è una spasso. Cioè non c'è disoccupazione in Corea del Nord? Non c'è assolutamente disoccupazione. Allora, fermo un attimo, fermo che c'è il traffico. Allora, la prima cosa che io farei per la città è il traffico, cercare di regolare il traffico sicuramente meglio di come adesso, la viabilità. La Zanzara. Ma non la comunque pensione, io non senatore mi sento di dire a tutti i cittadini che proprio la pensione ci tengo, allora si devono fare per forza leggere pure a loro. Sì, ma non è quello. La pensione è bella, sì. Anche perché così attiri le badanti moldave giovani. Vabbè, no, che per avere ti sposano pure. Va bene, sono cose che non ci. Però tu te ne freghi, sì, perché sei vecchio, dopo un po' muori, così il matrimonio non è per sempre, è solo per poco. Io questa cosa la trovo una cosa brutta, che vengono gli extracomunitari da fuori a rubare gli attentati che facciamo bene noi a casa nostra. No, guardi che non è, non ha capito. Che noi non ci abbiamo bisogno, sì, quando che abbiamo la mafia che ci ha reso famoso in tutto il mondo. Ho capito, però senta, parliamo invece dell'ISIS, no? Che crea tensione. No, questo non credo, sì, magari, magari a me non mi tocca, perché a me chi mi crea la pensione è l'INPS. Allora, Antonio Razzi resta uno dei personaggi migliori di Crozza, oggi in carne e ossa con noi dall'Abruzzo per parlare della sua amata Corea del Nord che minaccia il mondo con la bomba idrogeno. Ma dobbiamo, come dire, caro Antonio, dobbiamo sentirci in pericolo? Tu sei preoccupato oppure sono tutte puttanate? Io penso che sono tutte, come hai detto tu, puttanate. Io... Ma scusa, tu sai che cos'è la bomba idrogeno? Ma tu sei un deputato della Repubblica, un senatore della Repubblica, ma ti pare che Antonio, la bomba idrogeno è un paese criminale? Davide, io, guarda, la prima cosa che facesse, l'invitesse a mangiare due sagni e fagioli e arrosticini, vedeste che sta tutto a posto. Ma tutto che c'entra questo? Adesso che c'entra questo qua? Per fare la pace. La pace si fa anche... Al ristorante, vabbè, d'accordo. Però scusami, Antonio, ma la bomba idrogeno, sai che cos'è la bomba idrogeno? Sì, è brutto. Una cosa brutta la bomba idrogeno. È una cosa brutta, però... Ma che è esattamente? Lo sai, io non lo so, ma che è sta bomba? Ma loro l'hanno detto che non assolutamente, che non è per buttare a qualche altra nazione, bensì è per difendere la loro nazione. Per cui fanno bene, secondo te? Ma, nel senso che non è che nessuno lo dovrebbe fare. No, ma però nessuno tu dici, fanno bene però avere sta bomba? No, però ci sono multinazionali che ce l'hanno. No, molte dico, per te fanno bene avere sta bomba per difendersi dagli Stati Uniti, come dico, no? Ma questo non credo, però... Ma hanno provocato un terremoto con questa esplosione nucleare. Ma guarda che lo terremoto ci sta ogni tanto a tutte le parti, un tempo fa c'è stato lì in Pakistan. Dici non c'entra niente la bomba idrogeno. Ma che c'entra la cosa là? Allora, scusa, quando ci faceva degli esperimenti nelle cose lì, i francesi, che fa? Provocava pure terremoto. Ma ce l'hanno? Ma il mondo è mondo, tutti hanno fatto le prove tutte lo fanno. Dopo è chiaro che stanno bello, ce l'hanno bello chiuso a chiave nella cantina e non l'adoperano. No, dunque tu sei sicuro che non l'adoperano? Non l'adoperano sicuro. Io ce l'hanno in cantina sta bomba? Io comunque lunedì... Ma li tengono in cantina ste bombe? Sicuramente. Lunedì mattina incontro l'ambasciatore e mi informerà di tutto. Ma non è malato, non sta male l'ambasciatore? Però verrà qui per lui, verrà... Dunque, tu alle 11 di mattina di lunedì incontri l'ambasciatore? Sta lì al mio ufficio. Viene lui al tuo ufficio? Viene lui al tuo ufficio, vabbè. Sì, ma senti, ma è vero che a proposito di bombe, ma mi sa che i coreani sono gente che le fa davvero le bombe, secondo me? Cioè, proprio le bombe quelle, no? Le scoreggione, o no? Beh, pure quelle fanno. Cioè, ma le fanno sul serio? Cioè, Ma scusa, ma l'hai visto quando fanno quei... non ti ricordi quando quei film di sceriffi tanti anni fa, no? Che facevano i russi? Perché dice che ha mangiato bene. E uno quando mangia bene... Cioè, loro le fanno e non si vergognano, scaricano tutto così, scoreggiano... Ah, scaricano perché è salutare, così magari dice... esce la che c'è Si sente una puzza pazzesca, Anto? Ma se uno Beh, io questo non so se sente la puzza, perché io se sento qualcosa me ne scappo, perché non mi piace sentire quelle puzze. Senti, ma vuoi dare un consiglio all'ONU, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU? Ecco, tu che sei un esperto di Corea, perché non ti chiamano? Perché non ti chiamano dall'ONU? Un consiglio d'amico. Fatevi i cazzi vostri. No, assolutamente no, non si devono fare i cazzi, ci mancherebbe. Ma io sono disposto anche ad andare lì a dialogare per loro. Ah, mediatore dell'ONU. Ma io ci posso andare tranquillamente. Ah, bene, questa è una bellissima notizia. Allora, l'amico Matteo Salvino, che c'è il buon rapporto. Ma vogliamo magari mettere sullo stesso piano il grande stampa di mistura, ad esempio, con Razzi. Magari per testimone, vedi che uno il grande sinistro lì, Davide Parenzo, mi posso portare Parenzo per testimone. Parenzo, vuoi andare insieme a Razzi a fare da mediatore in Corea del Nord? No, da mediatore assolutamente, a visitare il paese facendo qualche domandina anche ai funzionari del noto regime. Però scusami Antonio, tu dunque stai dicendo il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dato che io vado spesso lì, parlo con Ciccio là, con... Parlo con Kim Yunam, che è il Presidente della Repubblica. E poi dovresti parlare anche ad aprile con il segretario generale del Partito dei Lavoratori, signor Anna. Tutte brave persone, tutte brave persone. Ma con me sono bravissime, io non posso dire assolutamente. Ma che vuol dire? Però che scusami, dunque tu sei la persona... Sono molto ospitale, molto gentile. Tutto funziona, un paese formidabile. Tutto funziona, tutto preciso, tutto pulito. Tutti lavorano, tutti, nessuno lo vede, sta tutti col sorriso e non ne vede nessuno incazzato sarebbe dire arrabbiato. In abruzzese, però, certo, non c'è nessuno incazzato. Comunque, tu ti proponi come mediatore dell'ONU per la Corea del Nord, cioè devi stare... Tranquillamente, sono a disposizione. A me non mi fa niente nessuno, non ti preoccupare. Ma sono paura talmente disperata che potrebbe... Però scusami Antò, ma è vera una cosa, adesso poi ti lascio, è vero che tu... Dopo tutto quello che è successo, adesso non abbiamo nemmeno tempo, ti vuoi ricandidare al Senato? Cioè non ci lasci? Dimmelo sinceramente, ti vuoi ricandidare? Ma io perché devo lasciare? Io sto lavorando per il bene dei cittadini. E dunque ti ricandidi? Sicuramente, almeno se c'ho la salute e se il Signore mi aiuta, vado avanti. Ma tua moglie si incazza come una bestia, amico mio. Altri 5 anni tua moglie ti insegue col forcone. Lo so, me lo dice tutti i giorni da quando ha sentito che io mi voglio ricandidare. Cioè, incazzata nera per questo? Mia moglie... Mamma mia, cara Maria, ti abbraccio, ti auguro buon anno, non ti incazzare, questo ormai ha la politica nel sangue, non puoi farlo. La Maria è qua e già mi dice, ma che cazzo dice, tu devi stare a casa. No Maria, abbi pazienza, ricandida, cioè, lascialo tranquilla, ma questo senza politica muore. Cioè... No, perché io voglio fare del bene agli altri, non per me. Vabbè, sto a posto, capito? Vabbè. A me non è problema. Vabbè, ciao, a presto, ciao, saluto a tutti, ciao. Grazie, ciao. Ma senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital. La Zanzara. No ragazzi, cioè ieri Mauro da Mantova, oggi Donato da Varese, se la Zanzara 2016 è questo, vivo attaccato alla radio, cazzo. Ragazzi, questo è da TSO, eh. Ormai è tutto degradato ormai. E poi, amici miei, arriva Povia. Ma tu te lo ricordi Povia? Cioè, ma non era meglio, lo dico con grande affetto all'amico Povia, che adesso appena lo chiamo mi manda a fare in culo subito, no? Che è grandioso anche da un certo punto di vista, no? Cioè, uno dice: pronto, Cruciani, vaffanculo, tu, straordinario, come se fosse il presidente della Repubblica, no? Ciao, vaffanculo, che pubblica dei video incredibili sul suo sito Facebook, internet, non so dove, in cui dice, si rivolge direttamente a Squinzi, Parenzo. Cioè, signor Povia, si rivolge a Squinzi. Ma esiste Parenzo oppure è morto? Non ho capito. Esiste. Dunque, comunicato numero 2, a causa di una protesta sindacale che avevo messo in atto in quest'ora, il gruppo di Mario Capanna ha deciso di mettere fuori gioco la sede per oggi, per ora, del Sole 24 Ore, Radio 24, secondo piano, Piazza Indipendenza. Ma non è fuori gioco, è semplicemente chiusa. Abbiamo perché il giorno di festa chiude, punto e basta. Negli anni 60 per risparmiare, avremmo preso i dipendenti della radio e li avremmo cacciati a calci nel culo. Poi saremmo andati a prendere i proprietari, cioè la Confindustria, meglio detta come datori di lavoro, cioè padroni, avremmo detto, e gli avremmo occupato così giusto per protesta le aziende per qualche giorno. Vabbè. Bloccando tutta la produzione, creando dei danni enormi. Povia si rivolge a Squinzi, Povia, cioè tu ti rendi conto? Povia. Vabbè, si rivolge Povia, a Squinzi. Ma Povia, cosa dice Povia? Poveretto, perché poveretto, che c'ha? No, poverino, di prima cantava che Luca era gay, però adesso sta con lei. Poi ha cantato il piccione, lì voleva fare la vita del piccione. Come un piccione, cosa fa il piccione? Boh, si capisce il piccione. No, quando lì. I bambini fanno che c'è. Poi, no, anche il piccione c'era, che scherzo. Sì, poi qua. Ma tra l'altro a me sta simpaticissimo, però si rivolge a Squinzi. Per l'euro, dai, è fissato, bisogna uscire dall'euro. Adesso non lo dice più nemmeno Grillo che bisogna uscire dall'euro. Sì, probabilmente è stato uno sbaglio, un errore, e il modo in cui siamo, ma ormai è quasi peggio uscire, secondo me, non lo so, a me non me ne fotte nulla. Usciamo pure, così vediamo che succede. Sì, dico così, Parenzo, usciamo, così voglio proprio vedere cosa succede se usciamo dall'euro. Gli voglio dare ragione a Povia. Quindi presidente Mattarella e presidente Giorgio Squinzi, tanto lo sapete benissimo, anche se non lo do proprio per scontato, la soluzione è uscire dall'euro, tornare alla nuova lira con il cambio 1-1, quindi un euro diventerà una lira, non cambia niente, soltanto chi emette la moneta, che sarà lo Stato italiano, far pagare obbligatoriamente le tasse a tutti gli italiani in nuove lire. Poi dice che Mattarella e Squinzi sono due tromboni. Tromboni. Se no, presidente Mattarella, presidente Squinzi e tutti gli altri tromboni al seguito, le aziende le aiutate, sì, ma a licenziare, fallire, svendere e chiudere. Però vabbè, questo qua è la sfissazione che c'ha per l'euro, per carità, il ricatto, Bruxelles, quello che volete. Però, senti cosa dice. È diventato anche neo-borbonico, Parenzo. Neo-borbonico. Non gli manca niente. Neo-borbonico è diventato, amico mio. Ora, durante le partite del Napoli c'è un gruppo culturale, non politico, culturale, tifosi tra l'altro sfegatati del Napoli, che vanno allo stadio da anni 90 in questo caso, con la bandiera del Regno delle Due Sicilie. Il movimento si chiama Movimento Neo-Borbonico. Da un po' di tempo queste bandiere vengono sistematicamente sequestrate, proprio così, sequestrate. Ma figuriamoci se là all'ingresso dello stadio vengono sequestrate le bandiere dei neo-borbonici. Non hanno sequestrate altre cose, se ne fottono no. Altamente i poliziotti delle bandiere neo-borboniche. E a te napoletano, se hai le palle di convincere tutti i napoletani ad andare allo stadio già domenica, cos'è, 6 gennaio, non so se è domenica, credo ci sia Napoli-Torino, e procurarvi tutti questa bandiera qua, oppure stamparla glossa, plastificarla e riempire tutto lo stadio, non solo la curva B o un fazzoletto di stadio, sarebbe una delle più belle coreografie che ha fatto il Napoli Calcio nella storia. E torna oggi, giornata del 6 gennaio, qui alla Zanzara, la nota rubrica, la pregiata rubrica Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavanti. Il conduttore Leo Siegel. senza dubbi neri pensamenti. Siamo alla ibernazione dei cervelli, perché secondo te uno che vota Renzi oggi, a parte tutta la sua cricca, il suo parentado, tutta la sua corte di miracoli, ma è un minus habeas mentale, una persona normodotata? Chi vota Renzi è una persona un minus habeas mentale, Siegel. Ai tempi del Duce la RAI funzionava meglio. Senti, senti. Io posso anche pagare, ma non voglio essere truffato. E quando tu ti spacci la disinformazione di Stato, di regime, che credo che se c'era la televisione ai tempi del Duce non andavano così le cose, chiedermi di pagare per essere ingabolato, per vedermi una serie di trasmissioni che sono semplicemente oscene, beh, io mi rifiuto. Datemi una televisione che sia una televisione e non una congrega di leccachiappe di Renzi, dei Renzi di turno, e magari ne ripenseremo. Così no. Ma in questo però c'è un pizzico di verità, cioè vuole dire basta con la televisione pubblica, lasciamo perdere il Duce. Ai tempi del Duce. Lo dice lui parlando da una radio di partito con i soldi pubblici. Ma questa è l'assurdità, certo. No, ma dico, lo dice lui, la critica che lui fa al servizio pubblico la fa lui da una radio di partito pagata anche da me, che non voglio neanche sentire neanche l'odore della Radio Padania, neanche l'odore. Senti, sentilo con un ascoltatore, senti. Produzione, parliamo di, come si chiama, di pubblicità. E 12 di cazzate varie, tipo la signora in giallo, che sono tre generazioni che la trasmettono, compreso anche a Natale e Capodanno. Servi di Roma fuori. È una cosa schifosa. Quel burattino lì, fiorentino, deve essere lapidato. Ma io non ho mai visto lapidare un quadrupede, ho sempre visto lapidare dei bipedi, sarebbe il primo caso di quadrupede. Perché tu hai mai visto lapidare un somaro? Io no. Oh, qui c'è un ascoltatore che dice che Renzi va lapidato e poi lui che aggiunge, signor Siegel, non ho mai visto lapidare dei quadrupedi, cioè dà dell'animale a Renzi. Che è un dialogo. Radio pagata coi soldi nostri. Cioè, almeno qui se ne dicono di tutti i colori, per carità, qui alla Zanzara. Guarda, il mio sogno è quello che al posto di Radio Padania, sì, in breve tempo, venga fatto un grande negozio di kebab. Cioè tu vedi al posto della sede di Radio Padania una grande kebaberia. Ma no, tu dovresti dire un'altra cosa. Al posto di Radio Padania ci vuole un centro profughi, di accoglienza profughi. Anche, però facciamo così, al posto di Radio Padania, questa, Parenzo, due punti. Sì. Al posto di Radio Padania... Allora fai il portavoce adesso. Sì. Parenzo, due punti. Sì, al posto di Radio Padania... Sì. Un centro per migranti e una kebaberia sotto. Così, questo sono d'accordo su questo. Sì. Aspetta, e Varine, questi qui che all'ingresso distribuiscono del numero, cioè adesso serviamo il numero 22, 23. Dai, Varine, ridotto a uscere, no, della, bellissimo, no, però, uscere del centro profughi. Solo, ma non uscire. Uscire, cioè, deve pulire anche il culo, deve pulire anche il culo ai profughi. Ma uscire di una kebaberia. Cioè, tu stai dicendo che il bravissimo conduttore di Radio Padania, Barin, sì, insieme all'altro conduttore, sì, Pellegrin, dovrebbero, sì, pulire il culo ai profughi in un centro profughi. Questo li stai augurando. Questo davo quasi per scontato che, cioè, dovrebbero pulire il culo ai profughi. Questo aiutare, cioè, a rimboccare le coperte, eccetera, eccetera. Certo, portare anche le bevande, portare. Certo. Dai, stai esagerando adesso, dai, stai esagerando. Certo. Stai esagerando, dai. Mi pare il minimo. Nella tempesta, come una madre e il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme, sfonda il muro. Allora, Benedetto da Padova, vai. Buonasera. Vai, dimmi, mi Benedetto. Mi riferisco ai fatti accaduti ieri o l'altro ieri, che sia in Germania, intorno alla stazione di Colonia. Come no, certo. Solo, dove un migliaio ieri di... Ieri li abbiamo un po' trascurati. I signori immigrati di Colonia, però il fatto è certamente grave, anche se abbastanza misterioso, perché possiamo pensare anche a un complotto dei nordafricani o di non so che cosa contro le donne di Colonia, il maschilismo, no, la cultura islamica, no, quello che vogliamo, però è abbastanza strana come cosa, no? Sì. A questo proposito volevo fare un piccolo commento pregando di fare uno sforzo per interpretarmi bene, perché quello che sto dicendo si presta ad essere male interpretato e strumentalizzato. Io penso che in Italia ci siano parecchie donne progressiste che potrebbero dare a quei mille e oltre immigrati quel conforto che hanno dimostrato, di cui hanno dimostrato di aver bisogno ieri. Cioè, no, però spiegati meglio, Benedetto, perché devi essere molto chiaro, non fare il paraculo con me. Cioè, tu stai dicendo sì, che le donne che tu definisci progressiste, cioè quelle che vogliono l'accoglienza degli immigrati, bravo, la società multiculturale, sì, multiraziale, per essere, ma per essere coerenti dovrebbero dare quel conforto che loro hanno, cioè dovrebbero farsi scopare dagli immigrati di colonia, questo tu dici. Esatto. Visto che sono progressiste. Ma dai, ma io dico, ma che cazzo dici, Benedetto? Tu dici che siccome le donne, certe donne italiane, sono per l'accoglienza, eccetera, eccetera, allora dovrebbero trovarsi nelle condizioni simili a cui si sono trovate, in cui si sono trovate, no, le donne tedesche? Non dovrebbero, per essere coerenti, potrebbero fare anche questo. Cioè, devono donarsi agli immigrati di colonia, quelli che hanno circondato le donne, palpato, eccetera. Se sono tanto sensibili ai problemi di queste persone qui, dovrebbero capire anche quel problema lì e cercare di risolverglielo. Parenzo, rispondi tu? No, io penso che sia, detto con questa voce anche così apparentemente tranquilla, ma penso che questo sia un idiota proprio, un povero idiota. Io penso che anche Parenzo dovrebbe farsi inculare da quella gente lì. Sì, ecco. Anche qua, perché da quella gente lì, maschi e femmine, è tutta la stessa cosa, quindi tutta Parenzo che è anche un progressista potrebbe anche farsi inculare. Beh, lei diciamo che oggi la giornata però ha avuto un fremito in questa giornata in cui sì, c'è la Corea del Nord, eccetera. Però l'intervento di Benedetto mi ha messo una certa carica, devo dire la verità. Allora, Benedetto dice: Parenzo si dovrebbe far inchiappettare dagli immigrati di colonia. Cioè, siccome lui sostiene che Parenzo è a favore dell'immigrazione, della presenza degli immigrati, eccetera, eccetera, allora bene, si faccia inchiappettare dagli immigrati. Parenzo, a te la risposta. No, ma la risposta sarebbe quello, se lo incontro a Padova, di tirargli, sputargli in faccia con amicizia e con grande simpatia, ma proprio fisicamente. Lo vedi per strada lì a Prato della Valle. Ma chi, Benedetto? Dici, io sono Benedetto, dove abiti? Scusami. Esatto. Però la seconda... Benedetto, dove abiti? In che zona abiti? Benedetto? Sui Colli Euganei. Dove? Sui Colli Euganei, in provincia. Conosco benissimo anche quelle zone, perché andavo sempre a mangiare... Beh, incontratevi, no? Incontratevi tu e Parenzo. Lo conosco. No, a me fa schifo incontrarmi, scusami, fa schifo sentirlo alla radio, immagino che sia voglia di vederlo personalmente. I miserabili preferiscono. Però scusami, vederli, tu ti sei augurato una specie di stupro di Parenzo. Non mi sono augurato uno stupro di Parenzo, come non mi sono augurato lo stupro delle donne progressiste. Ho detto che, siccome i progressisti in genere, le donne e anche Parenzo, è vero, o chi appartiene a quella categoria, sono tanto sensibili ai problemi di queste persone che fuggono dalla guerra e che fuggono dalla povertà e tutte quelle balle lì, dovrebbero necessariamente essere coerenti e le donne risolvere, come Parenzo, risolvere quel problema, sì, e dare ai marocchini quel conforto di cui hanno dimostrato il bisogno ieri in Germania. Tutto qua. Fermi tutto. Parenzo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure. La Zanzara. Cazzo, quando non ci sei io ti penso, cazzo, io la zanzara è parte della mia libertà, quando penso alla mia libertà penso alla zanzara, cazzo. E per i tipi di zanzara direi di andare con Francesco da Roma e i piccioni uccisi alla finestra. Tipi da zanzara. Allora, Francesco da Roma, vai, Francesco. Sì, ciao Giuseppe, devo raccontare una cosa. Ieri stavo leggendo il Corriere e ho letto che sì, su un peschereccio a nord della Sardegna due simpatici pescatori hanno attaccato un petardo al collo di un gabbiano. A parte che a me i penuti mi stanno sulle palle, mi fanno schifo, mi fa Roma che è piena di gabbiani, piccioni e mazzotteria. Io sì, quello che faccio per la mia città, io abito in mansardo, ho una carabina e gli sparo. Cioè tu spari, beh ok, però non risolvi una mazza, non è che puoi sparare a tutti i piccioni, no, che fanno guano. È quello che posso. Io cioè ti diverti con i pallini a sparare i piccioni. Cioè, tu stai ma una carabina come? A pallini, naturalmente. Beh, vedete, sono bicchierini d'acciaio. E cioè si può, tutti la possono comprare questa carabina? No, ci vuole il porto d'armi in realtà. No. Ci vuole il porto d'armi per questa carabina? Tu sì, hai l'ho fatto prendere a mio padre, anche lui. E però lo usi tu? Sì, lo siamo insieme, ci appostiamo in mazza. Stai dicendo che le ammazzi, gli spari, dunque tu spari, ma non potresti sparare, diciamo la verità. Sì, questo è corretto. Ti diverti a sparare i piccioni? Sì, mi fanno profondamente schifo. E secondo me è veramente una merda. Siamo veramente al top. Tu sei sul. Io sto in camera mia, nella mia mansarda, davanti a Montevideo, davanti a Villa Manfiglia, è pieno di piccioni schifosi. E quando si appostano ai palazzi di fronte, io sparo. A maggior ragione che una volta. Ma muoiono, non li prendi o no? Sì, mazza, una volta erano specchiti quattro, stavano nella rampa del garage sotto, infatti quelli di sotto dicevano ma che cazzo è successo? E io l'ho ripostato su Twitter e su Facebook e mi hanno dato della merda, del pezzo di fango, dicendomi che mi devo mettere... Cioè che cosa hai scritto su questa roba qui? Ho scritto, io sono dalla parte dei pescatori e spero che la magistratura indaghi crimini seri. Ma è possibile che la magistratura apra un'inchiesta e non so neanche per quale capo di imputazione verso un gabbiano morto, quando invece di indagare su crimini seri? Questa mi pare la follia, proprio la follia. Cioè, sono criminali. No, dicono per divertirsi, l'hanno fatto. Comunque, è una roba criminale. Stavano però mangiando il pesce che avevano pescato. Loro, io ho letto che si stavano divertendo in realtà a Capodanno. Beh, in realtà fa un po' ridere, una sciarada, signori, una sciarada. Cioè, che cosa hanno fatto? No, ripetilo pure, ripeti che cosa hanno fatto. Allora, c'era questo gabbiano che volteggiava sopra il peschereccio, che era pieno di pesce, come quelli che si vedono che rientrano in porto nelle isole. L'hanno placcato, non so come, perché non è facile. Hanno placcato gli hanno legato un bel petardo al collo, questo è arrivato via e è esploso. Beh, insomma, è una porcheria, è da sanzionarli, infatti. Vabbè, comunque tu hai detto che eri dalla parte loro e ti hanno ovviamente giustamente messo in merda, giustamente. Non hai diritto di parola, non hai diritto, ma diritto di parola no. Insomma, l'insulto più totale, quando io non avevo insultato nessuno. Beh, per carità. Per me i pennuti ti fanno profondamente schifo. Tipi da zanzara. Allora ragazzi, oggi ho fatto un'inchiesta pazzesca, caro Parenzo, un'inchiesta, le inchieste della Zanzara, e sono riuscito a scovare... Ma hai fatto la calza intanto per i tuoi Ma per che i tuoi calza? Amati. Ma io ho pensato alla radio oggi, ad altre cose, ma che cazzo me ne frega della calza? Sì, qualcuno l'ha fatta, spero, per mia figlia che non è qui a Milano, spero che qualcuno l'abbia fatta, io non l'ho fatta, mi sono scordato, che devo fare? Cioè, perché sì, non hai preparato una hai ragione. Ieri con hai ragione, mi sono completamente dimenticato. Spedita nel luogo dove si ma trova. Ma perché tanto io c'è qualcuno che lo fa, i nonni per lei, però è vero, avrei potuto fare una calza oggi. Mi sono... C'è qualcuno che lo fa al posto tuo? Sì, no, in realtà no, però potevo ordinare qualche cosa e farla fare da altre persone. Beh, ci voleva ma adesso mi devi far sentire in colpa alle 19:38 del 6 ci gennaio. Sono anche quelle non c'avevo, ma non ci avevo comprare, pensato no? Fino adesso. Adesso ci penserò. Ma guarda che basta poco per rendere felici le persone. Ho capito, ma non mi rompere i coglioni adesso. Non ci avevo pensato. Solo che basta poco per rendere felici, puoi anche renderle molto tristi. Basta poco uguale per rendere felici. Stai dicendo che ho reso triste mia figlia perché non ho fatto la calza della Befana. Non mi permetterei, ma dico che basta poco per rendere felici delle persone. Ho capito, non ci ho pensato, amico mio. Come ebbene, ad esempio sputare in faccia all'ascoltatore che ha telefonato prima, questo rende felici alcune persone, quelle dello stupro per intenderci, quel gentil signore dei che ti voleva stuprato dagli immigrati, ti voleva stuprato dagli immigrati. Basta poco per rendere felice, per rendermi felice basterebbe andargli a defecare davanti a casa. Mi basta poco per rendermi felice. Però dico anche, per rendere felici i parenti, i familiari, basta poco, avresti potuto fare questa calza e avresti regalato un sorriso ai tuoi cari. Non lo hai fatto, hai deciso di regalare l'infelicità, e va bene. Allora Allora, ho fatto un'inchiesta e ho scoperto che il signore che ha messo il gabbiano, cioè che ha legato le gambe, che ha fatto esplodere il gabbiano, mamma mia, si chiama Fadda, il pescatore, si chiama Fadda di cognome, Fadda, è un nome ancora non lo so, si chiama Fadda, e abita criminale in questo piccolo paese, com'è che si chiama il paese? Siniscola, Siniscola, signor Fadda, proviamo a chiamarlo, vai. Niente ragazzi, proviamo a chiamare il capo dei pescatori. Il capo dei pescatori di Siniscola. Com'è che si chiama il capo dei pescatori? Arriva, eh? Alessandro da Roma, vai Alessandro. Alessandro, dimmi, vai. Sì. Sì, alza la voce però, amico mio. Dai, questa è la radio, su, collegatevi meglio. Dai, Alessandro. È stato al telefono. Vai, vai, vai, dimmi. Volevo fare una domanda, ma apparenza è un raccomandato? Ma che c'entra che è un raccomandato? Da chi, come, quando, perché? Che vuol dire? Se uno va a guardare, perché se andava a fare una ricerca su internet, ma io lo faccio per aiutare la trasmissione, perché magari... Sì. Senso potrebbe non, andare meglio, però non ti preoccupare, ci penso io ad aiutare la trasmissione, cioè, basto ricevo, io solo per questo, ci sono diverse persone che hanno questo compito di aiutare questa trasmissione a crescere, non ti preoccupare, va benissimo, apparenzo, perché vabbè, una persona già che scrive su giornali tipo Liberazione con Liberazione, la rubrica hamburger e polenta, storia dal nord-est al suo esordio. Ma questo anni, questo 15 anni fa, ma chi se ne frega? Fantastico, testato con il macchinario. Ma che fai, il biografo di Parenzo? Che fai? Adesso spiego perché ho detto raccomandato. Perché questo analfabeta è riuscito a leggere bene, bravo, bravo. Il signor Parenzo è riuscito a sfondare, diciamo, in TV, sulle TV del suo parente Sandro Parenzo. Che non è parente. Prima ho iniziato, però, se lei volesse essere preciso... Ho iniziato prima nella mia città, Padova, nella emittente, prima Trivenza. Ma ragazzi, ma chi se ne frega? Qual è il punto? Alessandro, qual è il punto? Dimmi. Ma il punto è che secondo me gente come Parenzo non dovrebbe far radio, dovrebbe lasciare posto a chi se lo merita, a chi fa carriera, a chi si è fatto da solo. Ma questi sono cazzi nostri, a parte che lui si è fatto da solo, tutto si può dire tranne che non si sia fatto da solo. Ma qual è il punto? Non ho capito. Cioè, perché non ti limiti a criticare quello che dice una persona, invece di fare l'esame del DNA? E in questo caso ti assicuro che l'esame del DNA non conta un cazzo, perché i raccomandati sono altri, amico mio. Ti posso assicurare che uno può avere tutti i difetti del mondo, ma i raccomandati sono altri, te lo posso garantire. Guarda, su quello che dice Parenzo c'è poco da dire, perché però se ti fidi di me, tu puoi criticare Parenzo quanto vuoi, puoi mandarlo a fare in culo, puoi dire che è uno stronzo, che è amico dei Rom, amico degli immigrati, quello che vuoi, va benissimo, per carità, ognuno ha il diritto, ma ti posso assicurare, se ti fidi di me, che i raccomandati in genere sono altri, qui i raccomandati non ce ne sono, soprattutto perché qui in questo posto io non potrei avere una persona accanto che so che come dire, che usa il nepotismo, comunque è entrato in un posto semplicemente perché è parente di, eccetera eccetera, chiaro? Me lo auguro, Cruciani, me lo auguro. No, me lo auguro un cazzo, te lo dico, è così, punto, cioè non si discute questa cosa qua, cioè non si discute. Franco, provincia di Lucca, ciao Franco. Pronto? Dimmi. Pronto, buonasera, io sono un seguace di Osho. Seguace di Osho. Mai Reshi. Sì. Mai Reshi, e spessissimo vado nelle riunioni dove si parla di Osho. Ma perché c'è ancora qualcuno oggi che fa riunioni per Osho? Sì, certo, in Toscana, in Lombardia, ti dico dove. Però Cruciani, ascolta, ti dico una cosa. Sì, ma guarda che Osho, io ho letto delle cose durante le vacanze su Osho, cioè, per carità, l'amore, quello che vogliamo. Ma di che stiamo parlando? Ti spiego, stiamo parlando di una cosa che ti sfugge, una cosa che si chiama fica. Perché? Non sì, d'accordo, quando ma si fanno gli incontri di Osho, ti dico, allora, te non dire, non sentire quello che dice Osho, che è praticamente un profeta dell'ovvio, però nel giro di Osho, nell'incontro di Osho, gira tantissime belle ragazze. E vabbè, d'accordo, però tantissime, però scusami, se uno deve andare a cercare, come dici tu, la figa da qualche parte, beh, non è che uno proprio dice, vado dove ci sono le riunioni di Osho, beh, ma c'è una larghissima disponibilità, come dire, virtuale e non virtuale, larghissima disponibilità, in Italia, nel mondo, eccetera, ormai. Ma certo, però io ti assicuro che alle riunioni di Osho trovi delle persone tutto sommato divertenti, stai 2-3 giorni lì, e poi c'è questo contorno di belle ragazze a cui basta raccontare la spiritualità, questo, questo, quest'altro, sì. E diventano tutti delle riunioni che praticamente ci comincia a scorrere un erotismo, una sensualità che sono incredibili. Se vuoi ti dico dove sono stato l'ultima volta... No, ma spiegamelo, perché è interessante questa cosa qua, Franco. Sì, sì, sì. Ma come vi parlate voi? Così, ti ricordi, perdone, nel film? No, vi parlate noi... frequentiamo un guru, guardiamo un guru. Sì, ma certo, ma ci sono anche questi qui che poi a un certo punto ci spogliamo tutti nudi. Bravo, in piscina. Bravo, Cruciani, siamo andati. Ma dai, è verissimo. Ci dico dove l'ultimo. Cioè, dove sei andato? In piscina, tutti nudi. No, ero a Bagni di Lucca, in un posto che, se vuoi ti dico come si chiama Villaggio Globale, dove dentro hanno due belle vascone di acqua caldissima e verso le 11, mezzanotte la sera, tutte le persone con queste storie spirituali entrano nude lì dentro. Cioè, non ho capito, aspetta, questo è molto interessante, però. Perché io pensavo che queste cose fossero finite, cioè fossero negli anni 70, anni 80. Cioè, tu stai dicendo che ci sono una comunità con delle persone che a un certo punto si buttano tutti nudi in piscina, a parte che non c'è bisogno di fare la comunità, perché insomma, trattasi semplicemente di orgia molto comune, club scambisti, club... No, non sono orgia. Ah, perché poi alla fine non so, manco si scopa alla fine. Sì, si scopa, ma non tutti scopano, perché ci sono anche di quelli che non scopano, ci sono di quei cessi brutti di ragazzi. Vabbè, che c'entra, pure i brutti scopano, non è che... Sì, però praticamente c'è una liberazione, diciamo così, sessuale. Per esempio, hai letto il libro di Elsbock, Le particelle elementari, quando e come descrive no? questi villaggi? No, è Ulbeck, una cosa del Ulbeck genere. Si chiama, Ulbeck. Scusami, sì. Ulbeck. Ulbeck. È una cosa del genere. Io l'ultima volta che ci sono cioè, stato... Cioè, scusami Franco, allora, spiegami due cose. Allora, tu mi stai dicendo che esistono ancora delle comunità di seguaci di Osho, per esempio in Toscana, dove sei tu, dove a un certo punto cosa succede? Al di là della meditazione, tutti questi coglioni qua, l'alimentazione, le cose... Di scemate dell'alimentazione. Cioè, tu ci vai però per la figa, Io ci vado per la figa. Paga o no per iscriversi a questo Osho? Sì, si paga praticamente una quota quando vai lì. Non quanto è si paga? Poi, quanto si paga circa sui 250-300 euro a botta, per un fine settimana. Per un fine settimana? Per un fine settimana. Specie di bordello, vabbè. Sì, ma a me non me ne frega nulla di soldi. Vado lì, mi diverto, mi piace. Che succede? Spiegami che succede. Ascoltami, ti spiego. Allora, la mattina loro ti fanno fare queste specie, la chiamano meditazione dinamica, dove praticamente la gente comincia a respirare veloce, a saltellare così. Io non la faccio mai. Prendo, vado a fare una bella corsa nei boschi, dopo torno e mi dicono: perché non l'hai fatta? Perché volevo stare concentrato immediatamente nella natura. Poi dopo incominciano a fare tutti questi giochetti, praticamente parlarsi da una parte e dall'altra, ci avviciniamo, ci si conosce, e poi praticamente incominciano questi incontri, abbracci così, e lì incominci a vedere quelle più o meno che ci stanno. In genere ci sono sempre delle belle ragazze. E tutto il giorno va avanti così, si mangia malissimo, perché ti danno da mangiare tutte queste pappette astrochiro-vegetariane che ti viene la cagarella per 2 giorni. Beh, ma tu hai scopato o no? Sì, la sera poi. Ma dove? Lì, subito, in piscina? Sì, ti giuro, da ragazzi che non sapevo neanche come si chiamavano. Sono entrato lì, entri dentro a queste belle ragazze che sono nude, non tutte belle ragazze, sono anche dei cessi inchiavabili, come direbbe Berlusconi. Sì, però culone inchiavabile. Però spessissimo, dopo tutto il giorno che sei stato insieme, ti sei abbracciato, c'è cioè questa atmosfera erotica, riesci a chiamare con queste qui. E c'è ti assicuro, Cruciani, cioè tu praticamente ci vai, paghi 250 solamente per questo? Sì, ma... Se io voglio Quante te ne sei fatte, scusa? Me ne sono fatte, ma di ragazzi o di riunioni con Osho? No, di ragazzi. In un fine settimana quante te ne sei fatte? Due e tre senz'altro. Poi due e tre le fine settimana, diverse. Sì, ma ascolta, non ti sto raccontando una balla. Ci sono anche, mentre scopavo, delle lesbicate accanto a me. Cioè delle ragazze che si... Siamo veramente al top. Al top, Cruciani, ma ti assicuro che non ti sto raccontando una balla. No, per carità. Dov'è questo posto qui? È a Bagni di Lucca, in un posto che si chiama Villaggio Globale, tutto legale. Villaggio Globale, Bagni di Lucca. Franco, grazie, ciao. Caro Parenzo, ma oggi non poteva mancare un personaggio, eh? Questa giornata incredibile dove ci sono minacce per la pace nel mondo. La bomba idrogeno del signor Kim Jong-un è con noi, credo l'ultimo comunista che è rimasto in Italia, perché non ce ne sono poi tanti di comunisti. Non so se tu ti professi comunista, eh? Sono post-comunista. Ah, tu sei, dunque sei stato comunista? Non ho fatto in tempo più di ora perché la FIGC. Sì, ho capito, sai, però sei stato simpatizzante comunista. Lo sarei stato sicuramente, sarei. Ma non ti vergogni? Uno dice, ma non no, ti vergogni? Forse sarei stato di lotta continua, se fossi vissuto in quegli anni sicuramente sarei di lotta continua. Mamma mia, mamma mia, sicuro. Marco Rizzo è con noi. Caro Marco, come bene. Stai? Bene, auguri a tutte le befane. Ma scusate, ma tu festeggi la Befana? Non ho capito, un comunista festeggia la Befana? No, vi ho fatto gli auguri a voi, ma lo facevo più che tutto a Parenzo, perché se gli mettessi un fazzoletto, una scopa, potrebbe fare l'imitazione. No? Beh sì, con quel naso un po' così, ha un naso un po'... Garuzza, sì. Una Befana. Senti, Garuzza, ma si comporta sì. Bene il signor Kim Jong-un? Hai ammirazione per questo signore, tu? Dimmi la verità. No, io non ho ammirazione per nessuno, però tranne che per te stesso, faccio una valutazione di tipo politico. Israele ha la bomba atomica, nessuno dice niente. La Corea del Nord avrà la bomba atomica, forse ce l'ha già, anzi ce l'avrà con l'idrogeno. Sì. E perché tutto sto casino? No, beh, scusami. In conti, la prima bomba atomica, l'unica bomba atomica, le uniche due bombe atomiche sono state tirate sulla Terra, sono state tirate dagli americani, che sono quelli che dicono noi ce l'abbiamo, gli altri non la devono avere. Perché... Però, amico mio, una cosa è che ce l'abbiano gli Stati Uniti, una cosa è che ce l'ha un pazzo con i capelli strani, Ciccio, Kim Jong, là. Ma perché se vince le elezioni Donald Trump è più pazzo Donald Trump o Kim Jong-il? Ma no, ma dai, ma è diverso. Non, dai, possiamo, su. Non possiamo personalizzare l'uso della bomba atomica sulla base delle pettinature. Senti, ma tu sei ancora molto comunista? Io sono comunista. Per sì, cui ammiri la Corea del Nord? Ma la Corea del Nord ha un socialismo asiatico, che è una cosa un po' diversa. Vabbè, però adesso senza entrare nei dettagli, tu però no, sei... No, vabbè, tu mi chiedi se voglio il vino rosso e non posso dirti che mi piace lo champagne. Ho capito, però in Corea del Nord c'è la pena di morte, o tu ti dovresti incazzare, invece pensi che la Corea del Nord sia un paese indipendente? Io sono contro la pena. E sarai contro, ma è una cosa fondamentale quella, però, o no? Vabbè, ma la pena di morte c'è anche negli Stati Uniti, non mi pare state in alcuni stati, dai. Non mi pare state facendo una campagna contro gli Stati Uniti. Ma sai che sono qua? Sai perché te lo dicevo? Tu mi hai chiesto comunista, sì, perché sì. Il comunismo è la gioventù del mondo. Io qua ho un ragazzo. Che c'hai? Un ragazzo che si chiama Alessandro. Che è il tuo fidanzato, no? No, beh, su questo credo ci siano prove concernenti che non ho fidanzato. Ah, mai. Già, perché tu sei un Don Giovanni, sei considerato no, un gran no, Don Giovanni. No, io sono diciamo così, prendo le pasticche per la pressione, quindi sono. Cioè, sei a riposo diciamo, ormai. Sono in fase calante, ecco. Quando prendi beta bloccanti per ridurre la pressione, come dice il mio cardiologo, cala tutta la pressione. La libido quindi... si abbassa, la libido. Si abbassa, diciamo. Dunque, diciamo, però, diciamo vivo di ricordi, ecco. Assolutamente. I beta bloccanti, i beta bloccanti. Che fanno? Distruggono la libido. Però ti stavo parlando del comunismo come gioventù del mondo. Ho qua un ragazzo che è il segretario del fronte della gioventù comunista. Pensa che a Milano hanno vinto le elezioni. Ma come si chiama? Come si chiama? Si chiama Alessandro Mustillo. Mustillo. E te lo passo perché lui è stato in Corea. Passami sto Mustillo un attimo, dai. E te lo passo così ti racconta cos'è la cosa. Aspetta. Mustillo a voi. Sì, sì. Pronto? Alessandro, come stai? Eccolo. Tutto bene, ma voi? Tu che sei andato a fare in Corea del Nord? Compagno. Compagno Mustillo, che sei andato a fare in Corea del Nord? In una visita per vedere com'era questo paese. E sei rimasto affascinato? Per esempio dalla pulizia? No, quella era un'altra persona che c'era in Corea del Nord e è rimasta affascinata dalla pulizia. Vabbè, ti sarà a me rimasto... interessava di più il fatto dell'istruzione gratuita, della casa gratuita e tutte queste cose qui. Istruzione e casa gratuita. Casa gratuita. Cioè, queste sono le cose positive. Hai trovato tutte cose positive in Corea del Nord, allora. Istruzione, casa gratuita, poi? Ho trovato un'attenzione ai diritti sociali che qui in Italia non esiste più, la sanità per tutti quanti. I diritti sociali che in Italia non ci sono. Hai provato, ad esempio, dal tuo albergo a urlare "Viva l'America!" Hai provato? No, perché l'America mi fa schifo, perché dovrei urlare? Ah, l'America a te ti fa schifo, invece la Corea del Nord ha delle cose positive. Assolutamente sì, ma non sono, credo, l'unico a dirlo. Beh, in America ci sono decine di migliaia di bambini che non hanno una casa, in Corea del Nord non c'è nessuno. Caro Parenzo, veramente vengono allevati, tirati su molto bene questi signori comunisti da Rizzo, con le idee giuste, corrette. Ma hai provato, ad esempio, quando eri lì a dire "scusami compagno nordcoreano, mi fai vedere le carceri e parlare con qualche dissidente? Hai provato a porre questa questione? Cioè, per te i dissidenti oppure la gente che viene imprigionata, i morti, non te ne frega niente, sono come dire delle cose. No, però i dissidenti che si vedono in Occidente poi dopo un po' dicono che non erano dissidenti veri. Ma quali sono gli occidenti in Occidente? Ma c'è stato poco tempo fa, voi dovreste saperlo, visto che siete giornalisti, sì. un famoso dissidente che ha detto che si era inventato tutto quanto. Lo trovate anche su internet. Vabbè, ma ho capito, ragazzi, lì ammazzano la pena di morte, non ti interessa come cosa? Certo, ma c'è anche negli Stati Uniti, anche in Arabia Saudita, in tantissimi paesi del mondo. No, come ma sì, negli Stati Uniti, ma lì l'hanno deciso delle persone, però è un po' diverso. Cioè, questo signore Kim Jong-un, no, te ti sta simpatico o no? Ma ci sono i tribunali anche in Corea del Nord, e guarda, la Corea è un paese normale. Non è un paese normale, i tribunali funzionano perfettamente, sono così, il diritto alla difesa è garantito. Ma perché in Italia i tribunali con Stefano Cucchi funzionano bene? Vabbè, ma dai. Beh, l'obiezione su Cucchi ci sta, no? Ma che cazzo c'entra Cucchi con la Corea, dai, su. Il paragone con i tribunali italiani con quelli coreani, però questo non c'entra nulla. Cioè, lei si sentirebbe più sicuro ecco. Cioè, ti piacerebbe vivere in Corea del Nord? Si vive tranquillamente in Corea del Nord, ci stanno un sacco di ragazzi che lo fanno, anche italiani, ci sono alcuni che ci vivono. Sì, ho capito, però in condizioni diverse. Tu preferiresti vivere in Corea del Nord piuttosto che in Italia, per esempio? No, questo non l'ho mai detto, perché preferirei vivere in nessun altro paese rispetto all'Italia, ma questa è una mia condizione. Però in Corea del Nord si può vivere tranquillamente, cioè, assolutamente sì. Cioè i cittadini sono contenti? Sì, questo sì. Contenti? Per esempio, abbiamo parlato con varie persone. Sai perché? Avete parlato, ci abbiamo fatto parlare, cioè non avete parlato. Certo, comunque, non è che conosco il coreano, insomma. No, abbiamo fatto parlare con chi volevano loro, però no, quelli che abbiamo fermato per strada noi, senza problemi. Sì, fermato per strada, che casualmente fermava la gente, dai, su. No, perché decidevamo noi quando uscire e cosa fare. Sì, molto sicuro. No. Certo, sì, avevamo un interprete perché il coreano variava. L'interprete che era magari un signore dei servizi segreti, così tanto per. Sono tutti dei servizi segreti, insomma. Vabbè, caro Mustillo, ti ringrazio, ripassami un attimo Rizzo. Grazie. Grazie a voi. Grazie, giovane comunista, grazie. Compagno. Ciao ragazzi. Compagno Rizzo, un attimo solo. Svidania, ma cosa? Ma tu sei rimasto veramente a Stalin? Sei rimasto? Cioè Stalin per te è un grande. Stalin è l'unico che ha sconfitto il nazismo. Cioè, Stalin per te è ancora un modello. Stalin è quello che ha costruito l'Unione Sovietica assieme a Lenin. E dunque un modello. Non è Khrushchev e Gorbachev che l'hanno distrutta. Per cui Stalin è un modello. L'Unione Sovietica lì funzionava. Sì. Funzionava in quel contesto storico. Cioè ma un comunista. Noi il comunismo lo dobbiamo fare in Italia. Ma quale comunismo in Italia? Ci vuole Marchionne in Italia. Quale comunismo? Più Marchionne, meno. Più Marchionne, andiamo. Marchionne sposta la Fiat in America. Significa che in Italia non si può fare cazzo. Non viviamo di turismo. Senti, il turismo è il 12% del PIL. Se diventa già il 14%, ti manda. Senti, ma un comunista Zalone piace? Bah, devo dirti, quella comicità lì è un po' banale, mi piaceva banale. Più sì, banale, ma poi insomma sono gusti soggettivi, nel senso, a me può piacere, a non può non piacere, Alessandro Mustillo può piacere. Ma la violenza si può giustificare in qualche caso, secondo te? La società è violenta. No, ma la violenza in generale si può giustificare? Beh, in determinati casi. Cioè, è giusto sparare i ladri quando entrano dentro, quando entrano dentro casa? Sparare mai, però se entra un ladro a casa mia non è che faccio il fighetto radical chic e gli offro il caffè, gli spacco la faccia. Vabbè, i miei pugni sono ancora, la pressione è alta, però i miei pugni hanno ancora un certo tipo di forza. E quanto guadagni tu al mese? È per la legittima difesa. Il comunista Rizzo quanto guadagna al mese? Io guadagno dopo 18 anni di lavoro come ricercatore in un centro studi, 18 anni di IMSS, diciamo, e 20 anni di Parlamento, tra Parlamento europeo e Parlamento italiano, guadagno 4.500 euro. Di vitalizio quanto prendi? 4.500 euro. Ah, prendi 4.500 euro di vitalizio dalla Camera? Sì. No, dalla Camera, dal Parlamento europeo, tutto assieme. Sei un privilegiato? 18 anni di IMSS. Non avresti, 20... non avresti avuto la stessa pensione, sei un privilegiato. Io guadagnerei uguale, perché considera che ne do metà al partito. Quindi. Senti, ma un'ultima cosa, ma Renzi come lo consideri, uno di sinistra? Renzi è un dipendente dell'Unione Europea, del grande capitale, delle grandi banche. No? Tutto tranne che di sinistra? Persona non c'entra più nel. No, siccome qui c'è sono gente... Sono dipendenti. Ma, sì, sono dipendenti. Cioè, schiavi di qualcuno. Ma anche Obama è un dipendente del complesso militare e finanziario degli Stati Uniti. Non è che sono cattivi, sono dipendenti. Dipendenti. Uno dipendente non nel senso che dipendono, ma nel senso che lavorano per, e quindi se sgarrano vengono licenziati. Vabbè, insomma, ciao Marco, a presto. Ciao ragazzi. Ciao caro. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare, a chi avrei corteggiato. La Zanzara. Ma dai, ma scusa, ma questa trasmissione è fantastica. C'ha sempre però quel Parenzio che comunque è messo lì a dire delle cose un po' strane. Oh, e dopo il comunista Rizzo, Enzo da Ragusa. Vai, Enzo, dimmi. Pronto? Dimmi, dimmi. Sì, buonasera. Volevo riallacciarmi al discorso di quello che raccontava che il pescatore pesa un petardo al gabbiano. Sì, sì. Va bene, io se potessi farei la stessa cosa con i pescatori. Cioè? Va bene, cioè appenderei un bel petardo, li farei volare con un pallone bello gonfiato che poi esplodere in aria. Va bene, perché quello è maltrattamento di animale. Non solo, ma questo è abbastanza chiaro. Il radioascoltatore diceva che anche sparava. Aspetta, Enzo, non si sente niente. Scusa, Luigi da Milano, dai, si sente tutto disturbato. Luigi Milano, dai. Pronto? Dimmi, Luigi. Ma volevo dirvi che, francamente, è vero che voi due siete dipendenti. Di che siamo dipendenti? Anche di fronte alle proteste, non sono certo un difensore di Radio Padania, perché io sto da un'altra parte. Però Radio 24 prende i soldi, anche i miei. Non prendiamo nessun soldo, amico mio. Dallo Stato. Non prendiamo nessun soldo dallo Stato, no, e non dire minchiate. Ti può raccontare qualcosa. No, non prendiamo nessun soldo dallo Stato. L'editoria in generale, i gruppi editoriali in generale. C'è un problema. No, ma aspetta, hai detto una stronzata, dunque ti correggo. Guarda, tu saresti in grado anche di chiudere subito, non c'è problema. Non sono in grado di chiudere niente, non voglio chiudere niente. Ti sto dicendo semplicemente, Luigi, che questa radio non prende un euro, non prende un euro di contributo pubblico simile a quello di Radio Padania. Certo, i gruppi editoriali prendono dei soldi, secondo me anche questo è un errore, una cazzata, non dovrebbero prenderli, per gli abbonamenti, per le spedizioni postali, per la carta, sconti, eccetera, eccetera. Però stai sicuro? Ma non lo so, ma per me vanno aboliti anche quelli, cioè, però come tante altre cose dell'economia, ma non c'entra niente con i contributi pubblici, cioè, se non c'entra nulla, zero, e sono una minima parte, e sono una parte non minima, non so come definirla, proprio infinitesimale del bilancio. Comunque, di un gruppo editoriale. Posso, il problema poi con te è che tu praticamente hai detto una cosa che io non mi sono dimenticato, io sono l'antica. Non sono uno che irrompe nella trasmissione. Ma tu puoi anche non dimenticare niente, per carità. No, io no. Io sono diverso. Tu sei diverso. Sì, certamente. Tu sei Dio. Una voce normale, da serial killer. Senza vituperi, ingiurie. A me interessa più la sostanza. Ti interessa la sostanza. Ma di che cosa poi? Non ho capito bene. Arrivo subito. Ecco, arriviamo. Andiamo subito. Per esempio... diciamo il poliziotto buono, no? Sì. Saresti quello cattivo. Ma no, arriva al punto di dichiarare una cosa. Questo lo dici tu. Mi ha fatto venire l'orticaria. Sì. Solo l'orticaria? Sì. Ho dovuto usare anche il cortisone per quello che hai detto. Addirittura. Quando hai detto che a te dei minatori del Sulcis non fregava un cazzo. Ma non mi ricordo quando l'ho detto e se l'ho detto. Ma amico non c'è problema, mio. Guarda, sarà meno di un anno fa. Comunque, i minatori del Sulcis. Avete ma una chiave di ricerca, non lo so, lo può trovi. Darsi che l'abbia detto chissà in devo che dire contesto. Che quell'occasione, francamente, mi sono proprio detto, è una radio che regge il suo ruolo. Perché è una radio di Confindustria, dove c'è un conduttore che dice che dei minatori del Sulcis non gliene può fregare niente. Francamente, questa roba qui. L'ultima cosa su Parenzo, invece. America come faro di civiltà. Allora, ultimamente, non so, magari a voi giornalisti non è passato sotto gli occhi. Vedete, nelle scuole degli Stati Uniti, dai 10 ai 12 anni, già dalle scuole medie, diciamo, addirittura ci sono i metal detector per far entrare gli alunni in certi borghi, perché gli alunni arrivano lì armati, no? Poi l'America è un esempio, no? Vabbè, amico mio, stringiamo, dai, stringiamo. E niente, in sostanza, siete una radio che fa una trasmissione, secondo me è da condannare, ma io non sono folcloristico. Ma condanniamo pure, condanna. No, io non condanno mica. Io allora... vi dico così, che non sono folclorista come Rizzo. E quando Parenzo ha detto che gli piacerebbe andare a defecare da qualche parte, stasera... Ma che ha detto? Ma di che parli? Cioè, di cosa stai Parenzo, ma che ha fatto? Stasera, è ubriaco questo qua? Andare a defecare no, ma mi casa, io quello. Apprezzo, di ecco, questo ascoltatore, apprezzo. Defecare... Via Monterosa è un buon indirizzo. Io apprezzo di questo ascoltatore il tono della voce, perché è il tipico tono pacato, è il tipico tono di chi ha preso dei medicinali Ho capito. Che sono gli stessi medicinali che avrebbe dovuto prendere Mauro da Mantova. Che non hai voluto vedere neanche la FIGC. Vabbè, Luigi, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Sì, ti apro. Alberto da Torino, vai Alberto. Sì, salve. Dimmi. Ecco, io non so se è già stato detto perché sono stato via una decina di minuti. Ma non, comunque, non ti preoccupare, dimmi. Dimmi. Ok, ma su quel fatto di quella coalizione lì a Colonia per toccare. La coalizione, quella centinaia e centinaia di immigrati, più o meno identificati appunto, come immigrati, che hanno circondato, palpato, derubato donne. Ah, appunto, ma va benissimo, va no, benissimo. Chi ha detto infatti, che va benissimo? Va malissimo, no, non benissimo, malissimo. No, ma infatti non, qualcuno non, propone come al solito la castrazione chimica per gli stupratori, Salvini oggi su Facebook. Io comunque era per dire questo, non so se ti sei accorto, dopo questo fatto, perché è un fatto vigliacco, è chiaro che quando entrano, tra l'altro senza essere identificati, 100-200 mila possono fare abbastanza quello che vogliono, ma a parte quello, non so se ti sei accorto. Cioè tu dici, siccome la Germania ha accolto un sacco di gente, adesso raccoglie i frutti di quello che fa. La Germania, noi, cioè voglio dire, si è scatenata in Italia una difesa d'ufficio, vero, da parte dei soloni, vero, che dei buonisti, una difesa d'ufficio di questi fatti che sono gravissimi. E che cosa fanno? Cioè dicono che può succedere, non attribuiscono la colpa dicono che non attribuiscono la colpa agli immigrati, dici, all'immigrazione. No, può succedere, perché per carità, poverini, hanno anche le loro esigenze, no? Quindi di conseguenza. Ma chi ha detto questa roba? Certo, quando si mettono. No, lui vuole dire che non c'è la condanna, non si parla dell'immigrazione, dei danni provocati dall'immigrazione, eccetera, eccetera. Beh, diciamo che la prima a dire questo, la prima persona a dire questo è stata la signora Merkel, peraltro. Vabbè, ma cosa? A dire cosa? La prima persona a dire non usiamo questo terribile caso di Colonia, sulla quale stanno facendo delle indagini, eccetera, per criticare le scelte del mio governo sull'accoglienza dei profughi siriani, la prima a dire questo è stata una persona che non è una comunista o Renzi, ma è la signora Merkel. La prima. Vabbè, Alberto, allora cosa vuoi dire? Vabbè, ma queste qui sono prediche istituzionali, è ovvio. Ma a parte il fatto che io stavo parlando dell'Italia. Cioè, vabbè, ma insomma, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Voglio dire questo. Come si sono accorti questi signori che noi ospitiamo con tanta benevolenza e che manteniamo non so fino a quando, e che possono entrare a centinaia e centinaia di migliaia, si sono accorti, voglio dire, della nostra debolezza, per cui sono arrivati al punto che dunque che cosa fare? Vabbè, che cosa fare? Intanto vorrei dire ai nostri governanti, smettete di fare queste prediche eccelse, poi? Perché ne abbiamo piene le palle, tra l'altro queste prediche così poi? Di altissimo livello, cioè, ma superano anche il Papa che è più pragmatista dei nostri predicatori, voglio dire. Dunque tu che cosa avresti fatto a questi, allora, qua di Colonia? Cosa avrei fatto? Intanto, voglio dire, se qualcuno poi, qualche fidanzato, qualche marito si incazza e tirava fuori la pistola e gli sparava in bocca, e allora poi diventava, vero, un massacratore. Beh, certo, se tentano di stuprarti o di rapinarti, appunto. E uno, per me è giustificabile il fatto che uno prende una pistola e gli spara in bocca. Avresti sparato in bocca? No, adesso non so quello che facevo io, ma io dico, se capitasse, Non la trovo una cosa così fuori luogo, perché è anche giusto che uno, difenda le proprie donne. Ma a parte quello, poi c'è un altro fatto, secondo me, perché sappiamo benissimo, ecco, che africani, marocchini, sono bisessuali. Allora, chi ha detto che sono bisessuali? No, è così. Ma che ne sai che sono bisessuali? Scusami. Se hanno queste pruderie, hanno solo da incularsi tra di loro e lasciare in pace chi li ospita. Perché è anche una vigliaccata fare queste cose con chi. Cioè, tu stai dicendo che siccome sono bisessuali, si inchiappettassero tra di loro e non rompessero i coglioni alle nostre donne, diciamo. Infatti, no? Sì, sì, sì. pratica è così. Scusa, però come fai ad avere questa convinzione che gli immigrati sono tutti bisessuali, vabbè, che possono... Comunque è notorio, eh. Ma è notorio che cosa? Che cosa è notorio? È notorio che i medio orientali, non lo invento io, sono bisessuali. Ma io non lo so, ma chi è che sarebbe? Veramente è una cosa nuova che mi... No, non credo che cioè sia i tunisini, i nordafricani sono uguali a vapeur, cioè, a me risulta che sono... lo prendono e lo danno. Questo lo dici tu. Comunque no, voglio hai dire... detto tu, non è che l'ho detto io, cioè... Io dico che non devono toccare le nostre donne, che si inculassero tra di loro se hanno queste pruderie, e se ecco, no stanno giù in Africa, che ne hanno, voglio dire, no, di donne, perché devono venire qua a rompere le palle alle nostre. Vabbè, Gianni da Roma, grazie, Gianni grazie. Da Roma, Gianni. Ma che grazie? Grazie niente. Gianni? Eccomi. Dimmi Gianni, dimmi. Che stavi facendo, Gianni? Indovina. E che ne so, che stavi facendo? Stavo mangiando, che pensi che sto... Senti, a Lucia, tu dimmi, me devi spiegare. No, dimmi una cosa, Gianni, ma che no, veramente, ma che ma cosa no, sta alle 20, che mangia? Perché tu non mi fai parlare? Sono io che faccio le domande. Sì, io sei tu che fai le domande, ma dove... Fammi parlare. Ma figuriamo, ma figurati. Cerca di essere almeno una volta educato. Abbi pazienza, fammi parlare, poi parli tu. E non mi abbassare, per cortesia. Ma io non abbasso mai, anche sta fissazione io abbasso, allora, io non abbasso mai nessuno. Tu mi devi dire una cosa. Ieri avete fatto una trasmissione, ieri veramente... che faceva accapponare la pelle con quella persona ruzza. Vabbè, che questa chi è una tradizione dove c'è il trionfo dell'ignoranza. Quel povero Parenzo che è la tua spalla, potrebbe essere pure un buon giornalista, ma che gli tocca fare pettica avanti, fare la spalla a te, essere mandato a fanculo a te, certo. Io veramente non lo mando a fare in culo, però comunque ogni tanto... Lui parla forse di Donato da Varese. E poi ieri un'altra cosa te voglio dire, tu... Quando si parla di omosessualità, tu ti senti a spada tratta, fossi un poco omosessuale. Ah, beh, perché se uno sostiene di essere a favore del matrimonio ma gay, no, a favore perché, vabbè, dell'adozione. Mica perché, anzi, secondo me non lo sei, perché gli omosessuali sono persone intelligenti. A te l'intelligenza ce n'hai tanta. Sì, però se parli meglio. No, ma fermo un attimo, se parli più vicino al microfono, forse del tuo telefono, non so che cos'hai. Forse si capisce meglio anche gli insulti che vuoi fare, cioè si capiscono meglio. No, ma quali insulti? Che te sto insultando? No, ma eventualmente gli insulti che fai si capiscono meglio, capito? No, non ti sto insultando. No, ma dico eventualmente, se dovessi insultare. Sto facendo delle considerazioni. Sì, sì, per carità. L'ultima questione che volevo fare. Siccome sta radio è della Confindustria, no? Sì. Beh, per metterti a te lì a tenere questa trasmissione, tu devi essere un raccomandato. Sì, però sicuro. Oggi chi raccomanda queste persone sono i figli dei portieri, degli autisti, cioè non so le persone. E infatti tu non nulla contro i portieri, però ti manca una cultura di base. Sì, beh, non certo. Hai. No, a volte fai degli di letteratura che assolutamente delle spiegazioni che nemmeno un ragazzino deve. Sono d'accordo con te. Però te voglio bene. Sono d'accordo con te. Però te voglio bene. E voglio, guarda, la cosa che mi dispiace è che attaccano tutti quel poveraccio di Parenzo, che invece a livello culturale è superiore a te. Senza a livello culturale no, poveraccio. È superiore. Medicina, a me se mi dici che io sono cosa, tu, se, che se tu mi dici che sono superiore a livello culturale a qualcuno mi offendo. Parenzo no, io mi offendo, ma se tu mi dici tu sei culturalmente, io mi offendo, capito? Cioè se tu mi dici beh io hai un buon livello culturale, mi sento offeso. Mi sento profondamente offeso, ti giuro. No, appunto, se me lo dici, se tu me lo dicessi mi offenderei, pensa. Parenzo non so se sia offeso. Cioè, per esempio, io... Comunque, io non mi offendo. No, lui non si offende, io invece mi offendo. Se tu mi dici, mi dici cazzo, cosa, quanto sei preparato, dici, quanto sai bene questa cosa, ascolta, non me lo dire. Mi togli questa curiosità. Che dimmi. Titolo di studio c'hai tu e quello che titolo di studio c'ha Parenzo? Però dimmi, guarda, a stento ho preso la terza media. No, non di stronzate, ma, dai tu. Allora, ti dico, a stento ho preso la terza media. No, hai preso... Ma scusami, ma da dove è chiaro? Maestro d'asilo. Maestro d'asilo. E Parenzo c'ha una cultura classica. Questo signore Parenzo qua... Parenzo sicuramente c'ha una cultura classica. Tu hai fatto maestro d'asilo, ma no, le magistrali nemmeno. Maestro d'asilo. Ma che male c'è? Guarda. Perché ti manca proprio la maturità. La maturità, Però ti si ascolta... ti si ascolta con piacere, perché le cazzate, io sai, le sento la mattina da quelle due enfatiche alle ore 11, quelle fanno il latte alle ginocchia, quelle e poi sento volentieri te, perché se vuoi fare l'anticonformista, ma non lo sei. No, tu sei una persona, no, come tante altre. Ti hanno detto di fare così e t'hanno mi messo hanno detto di fare così. Ti danno una barca di soldi per dire, mi hanno state, detto di fare così. Sei molto, certo, sei molto simpatico. Ma tu c'è una regia dietro, no? Ma, che ma sono la un burattino. L'industria te lascia libero di quello di quello cazzo. Sono un burattino. Di farlo, perché hanno capito, la psicologia di oggi ha capito che più uno dice stronzate, la pubblicità è l'anima del commercio, e più si fa pubblicità. Ciao amico mio, ciao, ciao Gianni, ciao, ciao. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Tu dovresti essere menato, non denunciato per abuso di potere, perché con quel cazzo di microfono fai quello che vuoi tu. Tipi da Zanzara, vai! Tipi da Zanzara. Donato da Varese, ieri. Donato, vai, Donato, Donato. Salve a tutti, salve a tutti. Ciao, ciao Donato, salve, dimmi, tutti, dimmi, salve, dimmi. Salve, la merda che ci siamo. Sì. Vai, Donato, ho vai. Ho sentito parlare in televisione. Donato. Guarda che io sono molto incazzato. Anche sì, se perché sei incazzato, Donato? Senti come parte basso io quando i medicinali ancora fanno effetto. Io senti, sono un incazzato. Senti, no, la aspetta, medicina. Però, aspetta, però, no, no, ma ti avviso a chi ascolta. Però tu a questo stai sì. Cari ascoltatori, ascoltate quando la medicina fa effetto, improvvisamente quando finisce la finisce. Ma perché la... devi dire che è medicina? No, ma io dico solo, ascoltate stai, a chi ascolta. Stai zitto, cretino, eccolo! Stai zitto. Comincia già a finire l'effetto zitto, della medicina. Cretino, idiota. Senti, stai zitto, sentite, cretino, idiota. Stai sentite, zitto, cretino, idiota. Stai sentite zitto. L'effetto già finito, allora, perché la pillola dura aspetta, pochi però, secondi. Lascialo parlare però. Adesso... quello scroto che senti, c'è a fianco, finito no? L'effetto, lui dovrebbe l'effetto. Stare al mio posto lo scroto, ma non so per sì, quale situazioni sì, strane sì. Non so che ecco cazzo è finito l'effetto succede. È finito che l'effetto, lo scroto sta lì e io sto è finito qui. Lui è finito. Va viene ingaggiato, viene scritturato per fare sì, che cosa per tantissimo. Cagare soltanto sugli italiani adesso sì. di a questa merda infinita. Che cazzo pensi di quelle altre merde infinite di chi? Che hanno fatto partorire nel loro cervello il fatto che ogni italiano, se volesse, può ospitare in casa un profugo a 400 euro. Bellissimo, bellissimo. È l'iniziativa del comune di... È un orrore! Se l'assassino Renzi ritenesse questa cosa ingiusta, sempre toni pacati, moderati, sempre toni tranquilli. Renzi è sempre il capostipite della mafia finanziaria, ecco, è sempre il lurido figlio di puttana. Lo dico perché se io fossi un assassino mi armerei e lo andrei a uccidere. No, questo è grave, quello che stai dicendo. Che butta nel baratro questa povera Italia. Con 1,5 miliardi che spende il porco Renzi, perché sembra quel figlio. Scusa, di però puttana, tu hai detto il maledetto Renzi che deve essere ucciso. No, ma è pazzo. Ma fermatelo. 1,5 miliardi deve essere speso per gli italiani poveri. Vabbè, adesso stai dicendo che tu uccideresti Renzi. Dai, basta, è pazzo. Ma come certo, dai, no, Donato, dai. Ma se io fossi un assassino, io vorrei avere l'animo dell'assassino. Quello sanguinante per ammazzare Renzi, per evitare ma che faccia caputo. Ma no, ma segnala tutto alla polizia. Renzi è un assassino. Io quando devo aiutare una persona, se mi si presentano due italiani, uno che ha uno stipendio e un altro che non c'ha un cazzo, io gli 80 euro li do a quello che non c'ha un cazzo. Vabbè, ma questo è un assassino. Basta. Michele da Roma, dai. Sì, ciao ragazzi, però ho sentito la telefonata di prima di Donato, eccetera. Ragazzi, può mandare in onda sta roba? No, eccolo qui, diglielo in faccia. Donato? Ma che cazzo devo dire? Ma cosa devo dire? No, Michele, rispondi a Michele. Ma questo qui che poi si entra in radio a dire che avete fatto male a far parlare Donato. Ma tu, questo coglione lo sa quante decine di migliaia di persone che mi vogliono ascoltare, che sono dalla mia parte? Io sono dalla parte degli italiani poveri, degli italiani che non hanno voce nemmeno sulla carta igienica. Ma digli a questo stronzo, tra virgolette, non lo voglio offendere. Sempre tra virgolette. Questo qua deve lottare per questa Italia, questa Italia, medicine ci vogliono, questa Italia da difendere. Diglielo a questo pezzo di merda, siamo finiti. Quel cretino di Battista che pensa, lui pensa ai immigrati, li pensa, ci sono i negretti, oh, poi con quell'altro lì, quell'altra merda lì, Giobbe Covatto, quel figlio di puttana. Ma che c'entra Giobbe? I negretti in braccio. Si prendesse un figlio di una povera napoletana che... Ma l'unica speranza è che gli venga un infarto in via... Scusa, ma che c'entra Giobbe Covatto? Spiegami, che c'entra? Giobbe Covatto è un altro corrupto comunista. Aspetta, non ti preoccupare, che mezza Italia sta con me, coglione! Mezza Italia sta con me! Con i punti di mezza Italia sta con me. È uno psicotico. Con allora, gli psicotici. È pericoloso giocare con gli psicotici. È più pericoloso per il male che fai agli italiani, vergognati! C'era Michele. Con quella faccia brutta che hai! C'è un operatore umanitario, sì. Ah, sì. Donato, come consideri gli operatori umanitari? Uno schifo! Bisogna essere prima cosa operatori di italiani. Italiani poveri. Andate nel sud, c'è un mezzo milione di ragazze che devono contare i centesimi in tasca. Vergogna a questa gente, un operatore umanitario di merda. Tipi da Zanzara. Bene, con noi Massimo Boldi. Massimo, come va? Come andiamo, Cipollino grandissimo? Viva il Milan che ha perso. Ma come viva il Milan che ha perso? È una tragedia assoluta. Che su, ma devono cacciare Michailo, tu che sei un grande tifoso, Massimo. E secondo te? E che ne so, dimmelo tu, e io a te te lo sto chiedendo, tu che sei tifosissimo. Secondo me, oggi abbiamo avuto delle sfortune terribili. 4 gol potevamo fare. Beh, ho capito, allora, però. Com'è possibile? Ho capito, ma secondo te sta allenatore va cacciato o no, Massimo? Ma io non lo so. Lo terresti tu, Michailovic, ancora? Ma sì, lo terrei ancora, ormai sì. Tu dici, il problema non è lui, la squadra, non ci sono il i giocatori. Il problema non è lui, sono i giocatori, sono. Cioè, sono i giocatori, la squadra è scarsa, dai, questo è il punto. È più scarsa delle altre, dai, non c'è niente da fare. È quello che è quella posizione che ha, settima, ottava, sesta, no. Ho detto, il Milan deve essere venduto, ci vogliono i soldi per comprare i giocatori forti. Cioè, deve essere venduto, cioè Berlusconi deve, basta con questa storia, deve essere venduto. Basta, deve essere venduto. Ma a chi lo... Se lo comprerà che Cozzalone il Milan, te lo dico Beh, quello, scusa, questa è bella, devo dire. Parenzo si è risvegliato dal letargo oggi. E no, nessun letargo, ho sentito Donato Navarese, nessun letargo. Qui, però è vero, con i soldi che fa potrebbe comprarselo lui. Che dici, Massimo? No, potrebbe comprare un giocatore, perché poi qui così, sai, si parla di tanti soldi, ma poi bisogna vedere. Lo so, vedere. Cioè, tu, il problema sono i giocatori, non è quello. Però Checco di soldi ne ha fatti tanti. E tu l'hai mai visti i soldi? Credo che ne faccia ancora di più, credo. Ne farà tanti in più, Sei un po' invidioso tu o no? No, io no. Io ho fatto un tweet anche dove... Perché ho visto il film e mi è piaciuto molto. Ah, ok, tu non appartieni dunque alla categoria dei rosiconi, degli invidiosi rosiconi. Ma no, ma cazzo, ma quando uno è bravo è bravo, uno fa ridere, ma chi ce ne frega. Bravo, bravo Massimo, bravo. Cioè, tu sei andato al cinema e ti sei scompisciato dalle risate. Molto, tantissimo. Anzi, lo vado a rivedere, guarda. Addirittura? Sì. Ma ti hanno riconosciuto là al cinema? Sì, come no, hai voglia. Certo, che ti dicevano? Non dicono niente, tanti credono, ma è lui o non è lui, poi eccetera, sai, poi... No, ti dicevano, ma se prova a vedere Checco Zalone, eccetera. Ma tu l'hai conosciuto, Checco? No, io l'ho anche chiamato, sì, lui si chiama Luca. Sì, Luca Medici. Ah, vi siete... Ma non faresti un film con Checco? Ma siamo amici, ma certo. No, mi ha anche detto, in quanti eravate? Dico, ma eravamo in 4, beh... Ti devo 35 euro, ma certo. Cioè, voleva ridarti i soldi. Voleva ridarmi i soldi, sì. E perché? Così. No, perché secondo lui è stato... Non dovevo spendere i soldi per andare a vedere il film. Così, cioè, voleva regalartelo io lui. Poi, invece, siccome c'ho la tessera artisti, non ho pagato neanche niente. Ah, pure. Ah, quindi l'hai pagato. Almeno quello, dici, no? Almeno quello. Almeno quello. Senti, Massimo, ma tu l'hai visto i soldi in tutta la tua carriera, i soldi che ha fatto Checco? Credo anche di più. Credo che io e Christian insieme abbiamo fatto incassare a De Laurentiis quasi 1.000 miliardi. 1.000 miliardi? 1.000 miliardi. Così dicono, poi non lo so. E tu quanti te ne sono rimasti tutti i soldi che hai preso? 1.500 euro. 1.500 euro. Dai, ma come cazzo hai fatto a sputtanare tutti i soldi? Dai. Perché poi la vita ti porta anche a spendere i soldi. Guarda che sono tanti giocatori, artisti, eccetera, che hanno guadagnato tanti soldi e poi dopo alla fine si sono trovati con... E come fai adesso? Cioè, sei un po' in difficoltà. Adesso vengo a lavorare con te e così mi dai una mano, guadagno qualcosa. Cioè, tu l'ho capito, in banca c'è veramente 1.500 euro? Sì, avrò 5.000. 5.000 euro in banca. Cioè, dimmi un motivo per cui, a parte, che ne so, i figli... Ma li avrai investiti, ma scusa. No, i figli, forse qualche investimento, che ne so. Cioè, non... cioè che... Qual è la... no, com'è che alla fine li hai spesi tutti i soldi che hai fatto? Ma li ho spesi per una vita agiata, una vita comoda. Cioè, te sei divertito, dunque non hai rimpianti? No, diciamo. Divertito no. No, io no, assolutamente no. Non hai rimpianti. Sai anche divertito. No, l'unica cosa che mi dispiace... E che cosa? È solamente che dopo aver versato tantissimi contributi per 40 anni, sì. Prendi una pensione che è molto bassa. Quanto prendi? 2.400 euro. Lo so, purtroppo le casse sono... Vabbè, ma non va bene, però io ho versato tantissimo. So, amico mio, ma le casse sono amministrate male, fanno investimenti sbagliati, cioè sarebbero da prendere, da strozzare quelli che hanno amministrato le casse, sia dei giornalisti che degli artisti, che degli attori. Gente che fa... Se tu pensi che io ogni film versavo circa 100 milioni di EMPAL, di contributi, vabbè, quanti film vabbè. Ho fatto. Senti, ma Checco, vi siete sentiti per telefono dunque? Sì, l'ho salutato, lui è stato molto carino, ma l'ho salutato il primo giorno proprio che è uscito il film, gli ho fatto i complimenti. Ma un film con lui lo faresti? Ma sarebbe un sogno, sarebbe. Sarebbe un sogno addirittura? Sì. No, il vecchio ma sempre male. Perché lui è candido, è puro, è semplice. Non se la tira, dici, non se la tira. No, è una persona per bene, è un comico. Poi quando uno fa ridere. Ci sono poi non è, come dice qualcuno, un radical chic, diciamo. No, no? Cioè, non è no, uno, secondo me no. Secondo non è uno della sinistra militante. Ma no, è uno militante. che si diverte a far ridere e di conseguenza riesce anche. Poi il fatto che è un business che Mediaset ha fatto... Medusa, sì, Medusa. No, Medusa. Sì, è no, uguale. Ma è Mediaset. Sì, è uguale, dai, la stessa cosa. Sì. A proposito, Mediaset non ti chiamano, ti hanno richiamato poi la storia come fa? Beh, adesso credo che mi chiameranno per fare il prossimo film, questo sicuramente. Ah, Medusa? Certo. Quello che ho fatto è andato molto bene, ho incassato 4 milioni. No, ma in televisione dici? In televisione. No, in televisione credo che sia un po' difficile. Ecco, ma scusami Massimo, quando un film incassa ad esempio 4 milioni di euro come il tuo, cioè 8 miliardi di vecchie lire, all'artista quanto gli rimane? No, all'artista rimane niente, l'artista è ha preso già pagato. Dei soldi all'inizio. Prende il suo cachet e lì è finito. Beh no, perché invece Checco ha fatto l'accordo sugli incassi anche, credo. Vabbè, No. Se fai produttore... No, ma anche lì c'è una legge che non è stata chiara mai, eccetera. No. Senti, praticamente Massimo... non vengono pagati i passaggi in televisione agli artisti, oppure vengono pagati con questo nuovi maglie che Vabbè, ma non entriamo in questo. Tipo la SAI, la SIA, eccetera così. Vabbè. Che però non ti dà niente. Ragazzi, ci possiamo mettere a parlare di SIAE con Massimo Boldi? Cioè, siete matti, siete impazziti tutti quanti. Ha detto che il Milan deve essere venduto. A chi lo venderesti sto Milan? A un arabo? A chi lo venderesti? Ma perché è un arabo? Non capisco perché è un arabo. Perché in Italia non perché sono gli unici che hanno i soldi. Capito? Ma non è vero, ma magari ci sono anche altri che hanno soldi. Sì, ma in Italia non c'ha più i soldi nessuno. A Marchionne bisognerebbe venderlo. Ma Marchionne, quello la Juventus c'hanno già quelli. Vabbè, si piglia pure il Milan. tu dici la Fiat a questo punto potrebbe fare strike. Esatto. Comprassero, cioè una grande multinazionale italiana dovrebbe comprare il Milan. E siccome tra le grandi multinazionali c'è la Ferrari, potrebbe comprarsi il Milan. Poi, lo potrebbe fare. Potrebbe poi chissà fare. Marchionne che per chi tifa. Non si è mai saputo Marchionne per chi tifa, per la Juve. Ma secondo me non ti va. Beh, certo. Devi sapere, Parenzo, che non ti piace tanto Marchionne, o sì? A chi, a me? Ma io non lo so, a me sembra uno che abbia le palle come la Merkel. Che? Abbia le palle come la Merkel. Ah, ha le palle, dici? Beh sì, le palle ce l'ha sicuramente. Cioè, sicuro. Comunque devi sapere, caro Parenzo, che ho incontrato Massimo a Trieste in un albergo, sì, mentre stava girando delle scene. Parenzo del Sassuolo, Sassuolo Frosinone 2-2. Ma quello finita. È vecchio, cioè è finita oggi. Parenzo del Sassuolo, blocca tutto. Hai capito, Sassuolo, le squadre piccole menano. Hai capito come le calcola Squinzi, Parenzo? Allora, Massimo, ho incontrato, Parenzo, Massimo Boldi in un albergo di Trieste insieme a Massimo Ceccherini. Adesso, dopo la pubblicità, stavano girando le scene di un film che probabilmente uscirà a marzo, aprile, credo. No, esce dopo Pasqua, si chiama La Coppia dei Campioni. La Coppa dei Campioni, la Coppia dei Campioni, la Coppia dei Campioni. Allora, c'è a una Trieste. Scena incredibile, sì, in parte è stato girato a Trieste. Ci sei anche tu con un cameo. No, tuo, io non c'entro assolutamente nulla, ero lì per caso, ho incontrato Massimo Boldi e Massimo Ceccherini insieme. Nell'albergo, quello solito bellissimo. A Savoia, albergo tu. Formidabile, dove c'erano loro e mi hanno rappresentato, mi hanno proprio sceneggiato una parte del film in cui c'è Ceccherini che fa il pappone. Adesso, dopo la pubblicità, proviamo a chiamare Ceccherini, ci parla subito Massimo, così magari non si accorge di essere in radio, e Massimo gli dice che la parte del pappone chi la faceva, Massimo? Beh, lui, Ceccherini. Lui il pappone, tu chi eri? No, io sono il cliente. Ah, tu sei il cliente? Eh già. E le prostitute c'erano o no? Come no, come? Le avevi anche viste. Un attimo, che pubblicità. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. La Zanzara. È con noi Massimo Boldi, addirittura in una conversazione telefonica con Zalone. Zalone voleva rimborsargli il biglietto che ha pagato, i biglietti che ha pagato per non so chi, amici, familiari, per essere andato a vedere il film, 35 euro. Massimo, proviamo a chiamare Ceccherini, dai, vediamo. Dai, proviamo a chiamarlo. Proviamo dai. A chiamarlo. Parla tu direttamente però, parla tu, come se non fossi in radio. Massimo? Va bene. Massimo? Pronto? Aspetta. Adesso arriva, eh? Arriva. Al cellulare spento, va. Prova a chiamarlo te al cellulare, vediamo. Ma sarà dura. Al cellulare perché? Spento perché si vede che forse sta ciuccando un po', dici. Credo. Ma ancora beve, cioè, che gli dice che è guarito da... No, c'è una fidanzata che lo tiene, sì, perché là in albergo, Parenzo, c'era una fidanzata, la fidanzata di Ceccherini, che è praticamente considerata da Ceccherini stesso la sua salvatrice, diciamo, sì, no? Sì, è vero, quella è vero. Che l'ha salvata, eccetera. Perché se no si attacca alla bottiglia, diciamo. Sì, no, così. No, ma non è che si attacca alla bottiglia, è come un San Bernardo. Cioè? C'ho la botticella sotto il gozzo. Senti un po', Massimo, ma ci racconti la vera storia del tuo litigio, della tua rottura con Christian De Sica? No, basta, quella roba non esiste più, ma va, dai. L'ultima volta. Non ho mai litigato. Beh, sì, insomma, te l'ho detto anche in privato. D'accordo, però non lascia perdere quello che mi hai detto in privato, però lui insomma ha detto delle cose su di te, cioè, no, non ha detto niente. Cosa ha detto? Beh sì, ha detto delle cose, dai. Ha detto che non vuole fare più un film con me. Sì, sì. Perché siamo troppo vecchi. Ma no, non solo questo, dai. Ma io non mi ricordo altre cose, dai. Ma no, come no? Ha detto delle cose su ma di cosa? Te. Ma cosa? Ma ha detto che, insomma, dai, che alla fine sei stato tu quello che non voleva... Sì, no, io sono stato io a dirlo, non lui, ti mancherebbe, io l'ho detto. Ma non vi siete più sentiti? Sì. Ma rifarete un film insieme, no? Ma guarda, io credo che sarà difficile, però... Ma come mai? Insomma, ma perché ormai siamo troppo lontani tra l'uno dall'altro. Poi guarda, fare anche i film separati a questo punto è anche un fatto commerciale che sicuramente è più positivo. Cioè è meglio dal punto di vista economico? Incasso io, incassano gli altri. Cioè guadagnate di più separati? No, guadagniamo di più separati, guarda, credo proprio di no. Perché i periodi che abbiamo lavorato insieme con De Laurentiis... No, d'accordo, però oggi guadagnate di più facendo i film separatamente. Beh, forse lui guadagna di più, io guadagno meno perché sono più povero, hai capito? Vabbè, perché lui guadagna più di te adesso? Sì, penso di... Comunque lui ha detto, se la canta e se la suona, fu lui ad andarsene, questo ha detto. Se la canta e se la suona... Così ha detto una sciocchezza. Guarda, la Zanzara dovrebbe per questo 2016 fare una grande opera di mediazione e far tornare insieme questa coppia, capito? Ma poi scusa, ma hanno tentato in tanti, ma se non ci senti io non posso mica obbligarlo. Anche perché tu è lui che non vuole. No, è lui che non vuole. No, è lui che non vuole. Perché tu hai detto tornerei subito a girare un film con Christian De Sica, perché tu no. Io lo farei, io faccio il mio lavoro, è chiaro. Poi anche se fosse un film che poi alla fine andasse meno bene di come, a parte il fatto che non penso, ma chi se ne frega, anche tentare di fare una buona idea. Ma perché lui non vuole più? Spiegami, perché non vuole più, Massimo? Non lo so, cosa ti devo dire, cioè, lui pensa che siamo troppo vecchi, lui pensa. Cioè che tu sei troppo vecchio? Sì, forse sì. Lui pensa che sei troppo vecchio, che sei finito. Lui pensa che sei finito. Bravo, esatto. Pensa che invece ho dimostrato che col cazzo col cazzo che sei finito. Questo sei un po', vuol dire, t'ho trovato un po' zoppicante lì in albergo. Però... ma quella roba lì è una roba vecchia, quella lì, purtroppo. Che ti porti dietro? Che mi porto dietro e che spero di riuscire a risolvere breve, se no divento come Luciano Taglioli. Cioè? Che cantava con la sedia attaccata alla sedia perché non riusciva a stare in piedi. Ciao caro, ciao ragazzi, ciao, a presto, ciao Massimo, un abbraccio. Mina, comunque vabbè, via il Milan, che devi fare, chi se ne frega, va, sì, pazienza, ciao. Allora, Alessandro dalla provincia di Bergamo. Sì, ciao Parenzo. Dimmi. Ciao Cruzzani, siete bravissimi. Io volevo parlare a Parenzo in particolare, che lui che non può sentire l'odore di Radio Padania. Sì, magari... non posso sentire niente di Radio Padania. Beh, sì, ma uno ha diritto di stare sulle palle a qualcuno, no? Cioè che ti sta sulle palle qualche cosa, no? Ma io infatti voglio ringraziare Parenzo. Perché dimostra alla totalità degli italiani che ci sono italiani che odiano gli italiani più degli stranieri. No, ma io non odio nessuno. C'è una frangia di sinistra di cui secondo me Parenzo ne è un pieno rappresentante, sì, che odia gli italiani più degli italiani stessi. No, io odio degli stranieri. Come? Io odio le stupidaggini e le stupidaggini che vengono quotidianamente. Ma se tu le odiassi davvero, Parenzo, ma ti dico proprio fuori dai denti, se tu le odiassi davvero non daresti nemmeno spazio a quella rubrica di Radio Padania, che secondo me sono una serie di caffoni. Quella è una straordinaria rubrica dell'orrore. Quella è una straordinaria rubrica dell'orrore, come quando uno va al Museo dell'Orrore o al Circo dell'Orrore. Ma lo condivido, sono del tuo stesso avviso, pur essendo un leghista, perché secondo me, io spero che grazie alla vostra trasmissione Salvini capisca che certe cose alla radio non vanno tagliate, non va neanche dato spazio, perché la Lega non è questa. No, invece secondo me è sbagliato. Secondo me è sbagliato. No, la Lega non è questa espressione caffona. Però Alessandro, lascia perdere. Parenzo identifica la Lega con Radio Padania, a me non me ne frega niente. Io dico, noi facciamo una rubrica radiofonica, dunque non è un'analisi sociologica, anche se ovviamente uno poi ci può cogliere dentro degli aspetti che riguardano l'elettorato leghista o presunto tale. Io voglio invece la sopravvivenza, perché credo al contrario, che più le persone si possono sfogare, possono dire anche le loro corbellerie, meglio è. Sì. Cioè, non però bisogna tenere nascoste queste cose. Sono delle sedie opportune, secondo me. Ma che vuol dire le sedie opportune? Lì è una radio. L'unica cosa è che questa radio è pagata con i soldi del contribuente. Invece ci dovrebbe essere qualcuno che mette dei quattrini, qualche imprenditore che ha coraggio, e che sovvenzioni una radio in cui ci sono dei bravi conduttori che fanno anche come i grandi predicatori americani, e che vanno lì e predicano il verbo salviniano, il verbo della padana, il verbo adesso del nazionalismo, il verbo putiniano, il verbo lepenista, eccetera, eccetera. Sarebbe una grande cosa, però ci vuole qualcuno che ci metta dei quattrini, come succede, non è che ce li possiamo mettere noi i quattrini, certo. Questo è il punto fondamentale, il resto non mi interessa, il resto anzi, ben vengano gli ascoltatori che dicono le loro cose, i loro sfoghi, i loro razzismi, è tutto perfetto secondo me, non c'è niente di cui preoccuparsi, cioè chi si preoccupa dicendo Dio scandalo, eccetera, è un cretino, uno che non capisce che queste cose devono avere assolutamente il loro spazio, quello che non è sopportabile è che queste cose abbiano il loro spazio radiofonico con i soldi nostri. Aspetta Parenzo, guarda che ti combino, aspetta. Va bene, dai, Marina da Torino. Bruciani? Sì, dimmi. Allora, senta, dica quel Fido Scudiero che almeno nell'area della Zanzara, porca miseria, non si parli né di Bon Anné, né di Bon Noël e di altre cazzate varie. Che già durante la vostra... una radio così seria mi sono già dovuta assorbire in questo periodo i jingle. Ma cos'è sta roba? Una radio della Confindustria che fa i jingle del Natale. No, ma lasci cose. Perdere la Confindustria. Per me i jingle sono una cosa da... Sì, però io non ho voglia di sentire che anche nell'area della Zanzara... Ma qui non facciamo jingle, non ti della Zanzara, quel ragazzo... quel coglione, ha detto, quel coglione, ormai l'ha detto. Bon Anné, persino la Befana! Ma no, ma vaffanculo... No, ma vai, no, vai ma tranquillo. Vaffanculo! Ma ecco. Perché? Non ho capito, con chi ce l'hai Marina? Con chi ce l'hai? Ce l'ho con quel Fido Scudiero che ti è a fianco, che persino nel, come dicevo, speravo che appunto, e come è stato, che la Zanzara non faceva gli auguri, non faceva i buonanni. Ma chi li ha fatti gli auguri? Ma chi li ha fatti? Lui! A chi li ha fatti? Al popolo della Zanzara, a ma noi. Ma non lo so, ma non mi interessa, l'ha fatti lui, io non li ho fatti, odio. Sì, odio gli auguri fatti via radio. La telefonata comunque è quanto mai corretta, perché oggi è il giorno della Befana, quindi grazie per aver chiamato. T'ha dato dalla Befana, vabbè. Senti, ovvio. Ma sai che sei proprio stronzo? Come sei stronzo tutte le volte che grazie chiama per qualcuna, aver chiamato nel giorno della sua festa. Sì, grazie. Ma davvero? Sì, invece per grazie. Te è il giorno della festa del coglione tutto l'anno. Grazie. Ecco, appunto. Per aver chiamato nel giorno della sua festa. Ma adesso cosa fa? Quando chiude la coraggio, telefonata, prende la scopa. Caro stronzetto, vorrei che tu avessi il coraggio di chiamare nonnina tutte le volte che parla di Barbie, parla... No, ma non ho capito bene però, Marina, io non ho capito qual è il punto. Perché te la sei presa? Non chiamarla Marina, chiamala la signora Befana. Marina, perché cos'è che te la sei presa? Non ho capito. Non si capisce. Perché... Lui, siccome io non sopporto questa melassa degli auguri a pioggia, L'unica perimetro dell'area. Sì, è vero, io odio i jingle alla radio, i jingle natalizi alla radio, è una cosa terribile. Tu non hai idea, quando hai detto questa cosa, ho detto, ah, finalmente. Quindi, se già l'ascolto sempre, la Zanzara... Cioè, mi hanno chiesto di fare il jingle di Natale, delle feste, sì, mi sono rifiutato, ho fatto finta di dire di sì. Quando l'hai detto, io ho detto, meno male. Hai goduto un po', arriva questo coglione di turno... Che dice buon anno l'altro giorno. Vabbè, oggi ma adesso persino... ha detto così, dai, su, era un modo di dire, non è che... Ma così, ha già portato le caramelle in giro? Le ha portate? Chi? No, dico che... Guarda, ragazzo, quando quella tua moglie ti mollerà, tu che adesso ti credi chissà chi, perché avete fatto il caffè degli intellettuali, che tu non sei per niente, no, ecco, quando ti mollerà, attenzione, che cadrai male dall'alto, perché ti mollerà, perché sei talmente noioso, insopportabile, che anche lei si stufa. La profezia della Befana Marina. Ma c'è la profezia di Marina. Natania Zevi mollerà David Parenzo. Sì, ecco qua. Ecco, ma di sicuro incomincia a rinforzarti la pelle del culo. Sì, ma è bello perché è una persona anche educata, capisci? Questo è bello perché è una donna. È una nonnina. Vabbè, ma dice le cose che pensa, dai. No, no, ma certo, perché lei lo cucina il couscous, cara nonnina? Ma che c'entra il couscous? Lo adesso? Chiedo. Ma io vorrei che tu dicessi del nonnino anche a Sgarbi. Non è che stare. Perché non lo dai? Perché anche loro hanno più anni di me. Come mai? Non hai la forza, perché tu sei un leccaculo. A quelli ti possono servire, ti possono essere utili. Ah, quelli lì zitto e mosca, ti fai dare qualsiasi cosa da loro. Più utili della Befana nel giorno della sua festa, sicuro. Marina, ma tu quanti anni hai? 59. Vivi da sola? Sì, per forza. Sì. Perché... con un compagno. No, sì o no? Hai detto con un compagno, hai detto prima sì e poi sì, no. Con un compagno, nel senso che però non ho nessuna voglia di averlo tra i piedi tutti ma i giorni. Ma è il contrario. Quante volte fate sesso? Ma mai. Ma in questo periodo di befanaggine l'abbiamo fatto parecchio, perché siamo liberi dal lavoro. Ma che c'entra, scusa, perché si fa il sesso si fa solo quando uno è libero dal lavoro? No, però tante altre volte, come si sa, io... Ma in media, all'anno, quanto... In media? All'anno, ma all'anno che ne so, io faccio i grafici all'anno, Che ne so, cose. al mese. Ma una decina di volte. Beh, ma insomma, ottimo. È ottimo. No, cioè avete un buon ritmo sessuale, insomma, no? Ma anche perché siamo dei mesi in cui siamo via per lavoro in paesi fuori. Avete la malattia della monogamia o no? Dunque, quando ero più giovane sì, adesso un po' meno. Cioè adesso qualche... Ogni tanto ti concedi qualche libertà, insomma, ti fai... Ci concediamo. Ma anche cose di gruppo? No, ognuno per i fatti suoi, diciamo. Sì. Ognuno per i fatti ma suoi. Ma come di gruppo? Cosa intendi? Le tue solite porcate? Per più persone, rassemblement con più persone. Ma sei zitto tu che non ha voglia di sentirti. Rassemblement con più persone. Rassemblement, ma non sai neanche che cazzo è rassemblement. No, però scusami Marina, sì, no, ma perché le porcate? Le cose normali, cioè scambismo, oppure addirittura orge, cose di questo tipo, no? No, guarda, no. No. No, cioè cose, uno tu vai con un altro e lui con un'altra, diciamo. Ogni tanto. Vabbè, ma guarda che ottima questa cosa. Ma quando ero giovane sì, praticavo il discorso della scopata senza cerniera. La conosci, no? No, ma spiegami questa cosa. Ma che cazzo, non hai letto neanche il libro. Ah, l'intellettuale che hai a fianco l'avrà letto quel libro. Quale libro? Porci con le ali. Chiediglielo. Quale? Le spazzolate lì. Certo. No, 50 sfumature di che? Quello, No, ma che quello è recente. Appunto, dico. La Befana ha letto delle altre cose. Porci con le ali, l'ho già detto, ma non ma è quello. Vabbè, ma no. Qual è sta cosa? Dimmi, non sapete un cazzo. No, comunque è molto niente. Questa signora, però. Scusami, Marina, qual è il punto? Qual è la cosa, la scopata senza cerniera? Scusa. Che se ti piaceva uno, facevi. Poi il momento ha finito, ciao, arrivederci, togli le balle. Vabbè, ma che è? Questa era chiamata la scopata senza cerniera? Certo. Comunque, vabbè, oggi invece non è scopata senza cerniera, ma cosa? Oggi cosa? Ogni tanto... ammalata. Ah, a proposito, che cazzo avevi tu? Non lo so ancora, però sto guarendo. Boh, non lo so, un'infezione esterna. un'infezione esterna, non di... Ah, lancio la cosa. Io ho 20 giorni con l'herpes zoster e non guarisco. Hai l'herpes da 20 giorni. Credo. Dove ti è venuta l'herpes? Sul labbro. Nella zona sacrale. Cioè? Come si cioè? No, dal dimmi culo. Esattamente... Ah, nel culo. Cioè l'herpes al culo. Ma non al culo, la zona dell'osso sacro. Ecco, bravo, va. Quasi vicino al culo. Nipote di medico e poi non sai un cazzo. Ma no, ma era io domando, io faccio finta di non sapere alcune volte. Sono veramente basito del fatto che questa signora... Marina da Torino. Ho letto ieri, Parenzo, che la tua compagna, la Tana Zevi, si è molto incazzata perché un giovane ragazzo non le ha ceduto il posto sull'autobus. Sì, questo è un racconto terribile. Se te lo faccio fare da lei direttamente in questa finale di trasmissione... No, magari domani, perché sono le 20:51, dobbiamo chiudere. Domani non so se la trovi. Cioè, si è incazzata come una bestia. No, ti spiego, era sull'autobus, sì. E con la sua pancia il settimo, vabbè, quello che è, dai, manco sai il mese, poi aspetta che si arrabbia, si vecchia parte di queste cazzate. E ma no, perché ho letto io. Vabbè, e niente, si arrabbia, era sull'autobus e con la sua ma il finale dopo di questo racconto è: se per caso un mio figlio dovesse mai comportarsi così, raccontare da lei. Dobbiamo chiudere. Lapidatemi prima che lo ammazzi io con le mani, che sarà mai? È uno che magari non si è reso conto che era incinta. Natania, dai, non ti arrabbiare. Bisogna lapidare un figlio che non concede il posto. Però devo chiudere, a domani. Ma perché voi due, tu e Parenzo, state lavorando? No, tu e Parenzo, sparate minchiate. No, non so quanto ben pagati, ma questo è un affare che non mi riguarda. E tu lo chiami lavoro, questo? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8:00. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ah, vi ho beccato, siete di una ignoranza sesquipedale. Certo, perché non ho studiato un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? Radio 24. La passione si sente.